Leggo peggio, perciò cercherò di parlare in italiano molto lentamente, spero di parlare in modo semplice e spero che quello che dirò sarà chiaro. Nel testo che ho consegnato ho messo un sottotitolo che non vuole essere né troppo modesto né provvisorio, appunti per il seminario. Ed è così perché alcune delle cose che ho scritto, che ho dichiarato più che dimostrato in questi appunti, alcune di queste io ne sono molto convinto, cioè sono il risultato di ricerche personali, di riflessioni, di suggestioni che sono venute dalla scienza politica, dalla sociologia, dalla filosofia, ma soprattutto dal concreto lavoro di ricerca storica e di pratica con i fatti e con i documenti. Altre sono ancora per me dei problemi aperti, cioè ho delle idee, sarei anche deciso a sostenerle, però francamente non ne sono ancora molto convinto e credo che una delle finalità del seminario sia proprio quella di vedere se personalmente posso essere convinto o dissuaso dal continuare a riflettere su certi problemi. Probabilmente anche nella discussione una certa ostinazione deriverà dal fatto che ognuno cerca di difendere finché può le proprie convinzioni e poi comunque cederà alla ragione critica. Il tema che ho scelto è duce partito e Stato nella mitologia e nell'organizzazione fascista. E ho scelto questo tema non prevedendo la relazione del professor Pombeni, per cui alcune cose si accavalleranno e eviterò di entrare nei particolari che credo poi saranno trattati dal professor Pombeni e mi limiterò ad osservare il rapporto mito-organizzazione in relazione a questi tre elementi fondamentali del sistema politico fascista. Una piccola premessa che si riallaccia alla relazione del professor Valiani, del professor Bracher, è che io personalmente ho sempre una certa prudenza a utilizzare la teoria o il concetto del totalitarismo parlando di nazismo e di fascismo, così come cerco di evitare, parlando di fascismo, di pensare al nazismo, perché ho l'impressione che così come si è avuta per molto tempo una specie di svalutazione del fascismo da parte dei protagonisti della lotta politica, altrettanto si è avuta, dopo la caduta del fascismo, una svalutazione dei caratteri specifici del fascismo, una ignoranza o una indifferenza per i caratteri specifici del fascismo, privilegiando o il problema generale del totalitarismo o il problema generale del fascismo, in cui però la parte del leone veniva fatta dal nazismo. Per cui abbiamo avuto, lo citavo stamattina, alcune discussioni, teorizzazioni, interpretazioni del fascismo in cui tutti i caratteri generali erano prevalentemente derivati dal nazismo. Così come abbiamo avuto, ed è una responsabilità direi ancora più grave dal punto di vista scientifico, molte teorie sul totalitarismo dalle quali stranamente il movimento inventore del termine era escluso. Questo lascia qualche perplessità. Allora io in questa relazione vorrei fare uno sforzo, perché anche per me non è uno sforzo facile, quello di evitare di pensare al nazismo, quello di evitare di fare comparazioni, quello di evitare per questo momento di parlare del fascismo come rientrante in una categoria del totalitarismo. Se mi capiterà di adoperare la parola totalitario, la userò nel senso fascista, perché non voglio espropriare il fascismo di questo termine, e vorrei cercare, per quanto è possibile, nei limiti del tempo consentito e del tema che ho scelto, limiti che vorrei mantenere molto rigidi, di individuare un po' che cos'è la individualità storica del fascismo. Perché noi ormai credo abbiamo una storiografia abbondante sulle condizioni storiche e sociali che hanno preparato il fascismo. Possiamo dire che almeno per un lungo periodo, dalle origini fino alla maturità del regime, conosciamo anche abbastanza bene i rapporti fra il fascismo come movimento politico e il vario atteggiamento delle diverse classi sociali. Si sono raggiunte delle conclusioni, se non definitive perché non ci possono essere, ma abbastanza solide sul contributo che borghesia, alta borghesia, industriali, agrari, ceti medi hanno dato al fascismo. Però nonostante questo io ho l'impressione che la fisionomia propria di questo movimento regime politico, e uso l'espressione di Tucker ma per una comodità di sintesi, ha avuto dal 1922 al 1943-45. Non bisogna dimenticare due fatti evidenti, che il fascismo come movimento regime è stato il primo partito armato che ha agito in una democrazia liberale con l'esplicito dichiarato proposito di sovvertirla, che il fascismo è stato il primo movimento politico del nostro secolo che esplicitamente ha esaltato il ruolo del mito nella politica di massa. Terzo, che il fascismo è stato il primo regime della destra radicale, nazionalista, rivoluzionaria, chiamatela come volete, ma di una destra di massa, che ha creato un regime a partito unico. Qui Mussolini forse almeno in questo caso ha avuto veramente ragione quando ha detto un regime a partito unico che governa totalitariamente la nazione, è la frase che lui adopera nella dottrina del fascismo del 32, è un fatto unico nella storia. Ora, il problema che a me si pone, credo si pone agli studiosi del fascismo, è quali erano le caratteristiche specifiche di questo regime. Perché se adoperiamo teoria del fascismo in senso generale, teoria del totalitarismo, finiamo, come è accaduto, di espropriarlo di alcune sue caratteristiche specifiche. L'altro errore è la sottovalutazione, non più compiuta dai contemporanei, ma dagli storici, di questi aspetti propri del fascismo. Il mito, l'organizzazione del partito, prima ancora l'organizzazione dello squadrismo, il rapporto tra mito e organizzazione nella costruzione del regime fascista, il ruolo della figura di Mussolini, perché si è sempre parlato genericamente del mito di Mussolini, si è a volte identificato tutto il fascismo nel mito di Mussolini, ma in realtà qual era il rapporto tra Mussolini mito, Mussolini duce, Mussolini individuo, Mussolini capo del governo e tutto il complesso del sistema fascista? È un altro aspetto che appena adesso cominciamo a studiare. E tutto questo pone l'altro problema: da dove ha avuto origine questo rapporto mito-organizzazione, queste caratteristiche che esaminerò nel loro, almeno spero di poterlo fare in modo persuasivo, nel loro svolgimento storico, e se effettivamente si può parlare di un fenomeno che appartiene allo sviluppo della storia moderna, oppure si tratta di malattia morale, rivelazione specifica di malattie italiane, o di reazione, pure semplice reazione capitalistica, e quindi non ci interessa studiare il regime perché sappiamo perché funzionava. Funzionava come una dittatura di classe. Ora, il problema risale un po' indietro, per affrontare questo problema bisogna risalire un po' indietro, parte delle cose che dirò sono state già dette dal senatore Valiani, ma le preciserò per quello che riguarda il mio tema specifico. Quali sono i precedenti, le condizioni del fascismo? Che preparano il terreno per il fascismo. La mia convinzione è che la prima guerra mondiale è l'elemento determinante perché nasca il fascismo. Senza la guerra mondiale non riesco a immaginare come queste precondizioni potevano dare vita o preparare un terreno favorevole a formare questa nuova sintesi di elementi che già preesistevano al fascismo. Gli elementi che preesistevano, secondo me, sempre in relazione al tema specifico di mito e organizzazione, possono essere inquadrati nel problema generale della crisi dello Stato moderno, nel senso in cui questo termine veniva adoperato dai giuristi all'inizio del secolo, di fronte, e quindi in modo particolare dello Stato liberale italiano, di fronte al problema nuovo, prodotto quasi contemporaneamente dalla rivoluzione industriale in Italia e dalla formazione di una società di massa. Sono i due processi che segnano anche in Italia, come in altri paesi europei, con situazioni diverse, il passaggio da una società tradizionale ad una società di massa. Questo significa che c'è tutto un mondo di protagonisti nuovi che interrompono il rapporto tradizionale tra il potere, lo Stato e i governati, e sono i partiti, i sindacati e in senso generale questo grande protagonista che è la massa. Questa realtà sociale ha delle conseguenze sulla cultura politica italiana di quegli anni. Noi vediamo che il liberalismo comincia ad affrontare questo problema, soprattutto direi in due modi: con la reazione alla fine del secolo, cioè questi movimenti, questa nuova realtà va tenuta fuori dello Stato liberale perché altrimenti se lo invade lo distrugge, e un'altra soluzione che è quella che poi matura attraverso la crisi del secolo con Giolitti, queste masse sono una realtà che lo Stato liberale in qualche modo deve cercare di fare entrare in questa che era considerata la fortezza. E quindi la condizione a cui mi pare accennava lei ieri della crisi dello Stato liberale. Io continuo a sostenere che se parliamo dello Stato, lo Stato era forte, ma l'ho scritto, quindi non è una convinzione di oggi, l'ho scritto 7-8 anni fa, che il problema fondamentale è una crisi di consenso, non di forza. Lo Stato liberale cade perché neppure attraverso la politica di Giolitti riesce a conquistare l'affetto, come diceva Giolitti, o il consenso delle nuove masse allo Stato liberale. Non solo, ma nello stesso tempo, e schematizzo molto, la politica di Giolitti riuscì anche, contro la volontà di Giolitti stesso, ad allontanare dal consenso allo Stato liberale quelli che potevano essere i naturali depositari di questo consenso, cioè la borghesia e i ceti medi. Questo credo che sia un fatto incontestabile che avviene ancora prima del 1914-18. Però è ancora un fatto di minoranza, è un fatto che si manifesta prevalentemente nella cultura politica piuttosto che nei movimenti politici. È un fatto che non si esprime in un partito politico. Molti allora scrivevano, protestavano contro l'assenza di un partito della borghesia, di un partito liberale, ma solo qualcuno cominciava a porsi il problema, e tra questi non a caso c'era Alfredo Rocco, allora militante nelle file del Partito Radicale, il quale diceva: ma qui abbiamo una realtà nuova, che sono le classi medie, che stanno crescendo con lo sviluppo della società, dell'industrializzazione, della modernizzazione dello Stato, e questi non hanno un partito politico, noi come Partito Radicale dobbiamo essere i rappresentanti di questa nuova massa sociale. Ma direi che noi non abbiamo nessun partito di questo genere, e nemmeno il Partito Radicale, che si candida ad essere il partito dei ceti medi, riesce ad esserlo in questo prima della guerra, e non lo sarà nemmeno dopo, anzi scomparirà quasi. È però un fenomeno che ha dei riflessi molto importanti nella cultura politica, direi quasi anche proprio nel modo in cui viene concepita la politica. Questa trasformazione della società tradizionale in società di massa, che è un processo in corso, provoca in qualche modo anche la trasformazione della natura della politica, così come era concepita in una società tradizionale, e così come invece comincia ad essere in una società di massa. E si introduce un elemento nuovo, cioè la politica non è soltanto l'amministrazione dello Stato. La politica comincia ad essere concepita, e si pretende che sia vissuta, come un'esperienza integrale dell'uomo, un'esperienza che impegna tutta l'esistenza e che non è soltanto rivolta a organizzare, a regolare e a migliorare quello che esiste. Deve modificare radicalmente quello che esiste. La politica è creazione, non è amministrazione. Di fronte a questa trasformazione c'è un grosso problema, che è quello delle masse. Cioè c'è questo nuovo grande protagonista, è una energia. Tra i vecchi conservatori reazionari, per i quali questo problema non si doveva nemmeno porre, c'erano invece quelli come per esempio Alfredo Rocco, che sarà l'architetto dello Stato fascista, cominciavano a chiedersi se non era invece il caso di pensare ad un altro sistema politico, che non era più quello liberale, per poter incanalare questa energia. Ed è attraverso il pensiero del nazionalismo italiano che si pone forse tra i primi movimenti il problema della massa come una realtà che deve essere in qualche modo conciliata non con lo Stato liberale ma con la società borghese, che cominciano a porsi gli elementi nuovi di una nuova politica. Noi non possiamo, è il discorso nazionalista, lasciare le masse ai socialisti. Noi non possiamo trascurare quello che sta accadendo e lasciare che, mentre le masse proletarie si organizzano, la borghesia resta disgregata, frammentaria. Noi dobbiamo imitare i socialisti, noi dobbiamo organizzare le masse. Sono discorsi che appaiono, oggi sono molto evidenti perché li vediamo in prospettiva, ma in quegli anni erano, diciamo così, delle scintille che si trovano nel pensiero di alcuni di questi, e generalmente il movimento nazionalista è quello che più intensamente si occupa da un punto di vista di conservazione della società borghese del problema delle masse, ma è un problema che si trova con una prospettiva diversa, anche se poi per vari aspetti convergerà, in un altro movimento nuovo che nasce, diciamo così, formandosi con la sensibilità di questi avvenimenti, ed è il sindacalismo rivoluzionario. Nel sindacalismo rivoluzionario si ritrovano stranamente gli stessi elementi di tecnica politica, di nuova tecnica politica del nazionalismo. Cioè le masse sono un'energia che può essere pericolosa se non viene canalizzata. Il mezzo per canalizzarlo è l'organizzazione. Però c'è un altro elemento che viene proposto dai, come ricordava il senatore Valiani, dai sindacalisti rivoluzionari, e poi dilaga, sia pure con formule diverse, in questo, anche nel nazionalismo, cioè il problema del mito. Forse è la prima volta che in Italia questo problema comincia ad essere discusso come uno strumento efficace di azione politica. La fonte è Sorel, ma in alcuni casi la fonte è anche Le Bon, la fonte può essere anche Michels. Stranamente sono tre autori che, sia pure con diverse prospettive e a diversa distanza di tempo e con diverse valutazioni, sono abbastanza comuni, sono letture abbastanza comuni in questo periodo, o perlomeno certamente riflettono degli atteggiamenti, degli orientamenti politici fra il sindacalismo rivoluzionario e fra questa nuova nuovo radicalismo di destra, che apprendono che non solo è possibile canalizzare l'energia delle masse attraverso l'organizzazione, ma è anche possibile mobilitare le masse attraverso l'azione del mito. E quindi si prepara, riassumo molto schematicamente questi processi, ma quindi si preparano due movimenti nuovi, sindacalismo rivoluzionario e nazionalismo, con questa convinzione. Il protagonista della storia è la massa, oggi, lo dice il nazionalista Sigele, all'inizio del secolo. Noi non possiamo ignorarla, finora la storia la facevano i principi, ora la fa la massa, e forse la faceva anche prima, ma non ce ne rendevamo conto. Questa massa deve essere utilizzata. Il concetto di utilizzazione credo che sia già una profonda discriminante tra l'atteggiamento di fronte alla massa di questi movimenti e l'atteggiamento della sinistra tradizionale, socialista e comunista, in cui non c'è mai, a mio avviso, anche se l'utilizzazione può esserci, la convinzione che la massa è semplicemente uno strumento della politica. Un altro elemento contribuisce a preparare un terreno di contestazione radicale dello Stato liberale prima della guerra mondiale, ed è quella che ieri il senatore Valiani ricordava come la cultura antigiolittiana. E qui noi non abbiamo delle posizioni definite. Nazionalismo e sindacalismo rivoluzionario sono movimenti politici con una precisa ideologia che si precisa col tempo, ma poi esiste questo vasto agglomerato ideologico, culturale, politico, che ha come elemento comune l'avversione a Giolitti. L'avversione al sistema di Giolitti, che non è però ancora per molti avversione allo Stato liberale come Stato rappresentativo e democrazia pluralistica. Basti pensare che tutti i protagonisti della storia italiana fra le due guerre si formano nell'antigiolittismo, condividono l'odio contro Giolitti e condividono anche alcuni elementi comuni, positivi di quest'odio contro Giolitti. Mussolini, vabbè, è noto ormai, ma pensiamo a Mendola, Giovanni, Sturzo, Luigi Sturzo. Luigi Sturzo, come a Mendola, come Mussolini, vorrà l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale soprattutto e principalmente per liberare l'Italia dal sistema giolittiano. E così via, Nenni, Gramsci, Togliatti. Salvemini. Salvemini. Salvemini come generazione un po' più anziana, ma Salvemini. Ed è strano come, se si guarda non tanto alle precise, puntuali teorie o ideologie di questi singoli personaggi, ma ad alcuni temi, noi riscontriamo notevoli legami in questo periodo. E l'elemento comune, quello che io ho chiamato il mito dello Stato Nuovo, è un elemento che emerge, sia pure con prospettive diverse, attraverso questa confluenza di motivi antigiolittiani. Bisogna combattere Giolitti perché Giolitti è un dittatore, è un corruttore, e progressivamente si comincia col dire: ma Giolitti è un corruttore, Giolitti è un dittatore perché il sistema è corrotto, il sistema è una dittatura. Direi che questo mito dello Stato Nuovo, prima della guerra, è un fatto di intellettuali, di gruppi, è un problema che si pongono giuristi come Orlando, come Santi Romano, la realtà dei sindacati, queste nuove organizzazioni che lo Stato liberale non aveva previsto, stanno premendo. Quali sono gli strumenti con i quali noi possiamo affrontarli? Le risposte erano varie, ma c'è uno che dà una risposta precisa, elabora un progetto preciso di riorganizzazione dello Stato già nel 14, ed è Alfredo Rocco, ormai passato dal radicalismo della giovinezza al nazionalismo. Il disegno di Rocco è preciso: lo Stato liberale è morto o è moribondo, non solo perché è uno Stato che loro odiavano ideologicamente, perché nasceva dalla rivoluzione francese, dai principi dell'individualismo e così via, ma perché c'era anche un ragionamento di tipo funzionale, perché non è uno Stato adatto a vivere in un'epoca caratterizzata dalla società di massa e dai conflitti imperialistici. È un discorso che ha una certa suggestione in ambienti intellettuali nel 14, nel 15, Rocco lo continua dopo, ma direi che anche in questo periodo noi abbiamo elementi sparsi che lasciano intravedere la formazione di una cultura del dissenso molto profonda, molto radicale, contro non tanto lo Stato in sé, quanto contro lo Stato centralizzato e liberale, e che propongono almeno due soluzioni diverse. Quella, diciamo così, di nuova democrazia, come la chiamava Mendola, cioè bisogna creare un ordine nuovo, i termini sono suoi, sullo Stato liberale, ma che sia un ordine nuovo fondato sull'idea di come conciliare la libertà con le masse, l'ordine con il cambiamento. Dall'altra parte, e quindi c'era un mito dello Stato Nuovo che potremmo chiamare di nuovo liberalismo, di nuova democrazia. Dall'altra parte c'era invece il progetto di Rocco, molto preciso, che lo Stato Nuovo nasce dalla dissociazione del binomio Stato-Libertà, Nazione-Libertà. La società moderna, società di massa, società di organizzazioni, sia a livello nazionale, di partiti, che a livello di grandi concentrazioni industriali, l'esempio di Rocco era la Germania di quel periodo, le grandi nazioni che vogliono sopravvivere in quest'epoca devono organizzarsi, e l'unica forma di organizzazione è quella statale, fondata sul predominio della borghesia e sulla irregimentazione attraverso i sindacati delle masse. Il problema del sindacalismo va sottratto al proletariato, al socialismo, e va assorbito dal nazionalismo. Tutto questo non ha nulla a che fare, secondo me, e ragioniamo come se non sapessimo i risultati della guerra, con il fascismo ancora. Io non sono d'accordo con chi, come per esempio Sternel, sostiene che addirittura già dal 1880 noi abbiamo una sintesi fascista. Secondo me noi abbiamo tanti elementi che sono in Italia soprattutto, e non voglio fare, ho detto che non faccio paragoni, confronti, in Italia non possono essere definiti fascisti, perché a parte il caso di Rocco, noi possiamo dire che tutta questa cultura radicale di contestazione, di movimento, cultura movimentista, contro lo Stato liberale esistente, è una cultura che comprende sia quelli che diventeranno fascisti, sia molti che diventeranno antifascisti. Definirla come prefascismo, secondo me, significa già precostituire delle discriminazioni, perché i motivi, l'italianismo di Mussolini in quegli anni, pur di socialista e di rivoluzionario, ma anche lui crede alla terza Italia, proletaria, eccetera, eccetera, è lo stesso italianismo di Amendola. Non possiamo dire che questo italianismo, questo senso che l'Italia, come lei diceva, è in un'epoca nuova della sua storia, un'epoca di espansione, è un mito anche questo molto forte e comune, e debba essere considerato necessariamente un mito prefascista. Secondo me l'elemento di catalizzazione di questi motivi, di questi temi, di questi movimenti, è la guerra. La guerra aggiunge al mito dello Stato Nuovo, che diventa per molti, per milioni, 5 milioni e più di italiani che partecipano alla guerra e che per la prima volta subiscono una forma di politicizzazione, cioè entrano a contatto con la politica, con miti politici, con linguaggio politico, e soprattutto tra questi, quei famosi ceti medi, che erano considerati gli assenti dalla politica, perché accettavano la realtà come era, ma non si riconoscevano in questa realtà, e per i quali questo mito dello Stato Nuovo, così come era presentato, uno Stato che avrebbe dovuto valorizzare i valori intellettuali e i valori delle classi medie, appariva come un elemento di mobilitazione, di forza. E la guerra però aggiunge dei miti nuovi, e questi sì hanno un'influenza per la coagulazione nella formazione del fascismo, e sono il cameratismo, la militarizzazione della politica, che poi si vedrà nello squadrismo, il culto della gerarchia e della elite, il culto del coraggio, e soprattutto la convinzione che la guerra ha stabilito la lotta tra amico e nemico. Da una parte c'è la nazione, dall'altra parte c'è il nemico. Ma il nemico non è soltanto al di fuori dei confini, è anche dentro i confini. E quindi questo trasferimento della convinzione che c'è anche un nemico interno passa dalla guerra al dopoguerra. E per molti, pensiamo appunto sempre a questi gruppi di ceti medi, non parlerei di ceti medi in generale, perché c'erano ceti medi cattolici che non partecipano a questa mentalità, ma tutto questo crea una specie di esperienza vissuta del mito dello Stato Nuovo, cioè crea una solidarietà di classe molto forte, crea una solidarietà nazionale. La nazione è uno dei rimproveri che veniva fatto al sistema liberale, che era stata un'istituzione sovrapposta agli stati precedenti, ma non aveva creato la nazione. Ora la nazione c'è, e chi ha fatto la guerra? E poi l'altro elemento fondamentale: la politica non si fa in Parlamento. Il Parlamento rappresenta il luogo della chiacchiera. La politica si fa con l'uso delle armi, la politica si fa con la militarizzazione della politica. E direi che è qui che noi possiamo vedere il vero momento di coagulazione tra una cultura politica che acquisisce nuovi elementi dalla guerra, una massa sociale che viene mobilitata dalla guerra, e poi il terzo elemento, un dirigente ed un'organizzazione, cioè Mussolini e il movimento e poi il partito fascista. Tralascio di parlare di Mussolini perché lo riprenderò quando parlerò del mito del Duce, ma il partito fascista. Sappiamo che nasce come movimento antipartito, libertario e temporaneo. Non c'è nessuno, credo, che fino al 20 pensa che il fascismo sia un fenomeno che debba durare in eterno, o nemmeno in un eterno temporale, come si può prevedere per un movimento politico. La convinzione è che, raggiunti certi obiettivi, il fascismo si esaurirà. Però è anche vero che questo atteggiamento cambia profondamente quando il fascismo diventa un fenomeno di massa. un fenomeno di massa che sorge spontaneamente, non per impulso del centro, non per impulso né di Mussolini né di Milano. Lo squadrismo, a mio avviso, è un fenomeno non solo di reazione contingente, è anche questo, ma è anche un fenomeno politico con sue caratteristiche specifiche. E sia pure con una formula che può apparire troppo netta, io ho detto che lo squadrismo è il vero embrione dello Stato totalitario. Perché lo squadrismo adotta la militarizzazione della vita politica, nel senso che non ci sono avversari da persuadere o con i quali discutere, no, sono nemici da distruggere o avversari da sottomettere. Cioè noi siamo la milizia volontaria della nazione e noi abbiamo il diritto di stabilire chi è per la nazione e chi è contro la nazione. Non c'è possibilità di discussione politica, di persuasione. O si accetta la nazione o non si accetta, e stabiliamo noi che cosa è la nazione. E nazione era ceti medi, borghesia, ordine, eccetera. Ma non era lo Stato ancora. Lo squadrismo rappresenta una esperienza vissuta di quello che il fascismo poi vorrà creare come mito dello Stato totalitario, del Bund. Credo che il termine tedesco sia più corretto delle varie traduzioni italiane di setta, o c'è proprio questa affinità elettiva di persone che hanno vissuto la stessa esperienza della guerra o quella specie di esperienza della guerra che è l'azione squadrista, che sono legati da quello che comincia ad essere il linguaggio pseudo-religioso, dal sangue dei martiri, dal sangue dei caduti, ma anche dal sangue dei camerati fascisti, che sono legati dal vincolo della violenza e dall'azione terroristica. Ma sono anche quelli che, dove vincono, stabiliscono un dominio politico assoluto che prefigura, secondo me, lo sviluppo successivo del fascismo. E la conferma è data dal fatto che nel momento in cui il movimento fascista diventa partito, non è un partito tradizionale, non è un partito che si sovrappone allo squadrismo, è un partito che assorbe lo squadrismo come suo elemento fondamentale. Mussolini non vince al congresso di Roma del 21, quando viene fondato il partito, perché elimina lo squadrismo che gli si era ribellato, no, perché lo accetta come componente fondamentale, è la nascita ufficiale istituzionale per statuto del primo partito armato. È credo l'unico caso in cui un partito armato, un partito nel suo statuto stabilisce che ogni sezione deve avere le squadre armate pronti a correre all'appello dei capi, eccetera, eccetera, per la difesa della nazione. Ma c'è di più, questa identificazione e quasi confusione tra la parte armata e il partito, che continua ad essere un partito abbastanza elastico nei rapporti tra un centro e la periferia, e Mussolini non è ancora l'uomo che lo possiede interamente, è un rapporto che accentua sempre di più l'elemento squadrista, con quello che ho detto prima, come sempre tenendo presente, come esperienza politica di tipo che prefigura il totalitarismo fascista. Nel 21, dicembre del 21, quando pare Bonomi, sì, Bonomi. Pensa di abolire i corpi armati, è possibile nell'Italia liberale, dove il liberalismo è in crisi, non lo Stato, ma sono distinzioni che ci porterebbero lontano, tollera che Michele Bianchi, segretario del partito, stabilisca da oggi tutti i fascisti sono squadristi, e quindi ordinare lo scioglimento delle squadre significa ordinare lo scioglimento del partito fascista. Questo era possibile in una democrazia liberale, dopo che non solo c'era un partito con uno statuto armato, ma faceva queste dichiarazioni, e che queste non fossero dichiarazioni contingenti, ma che secondo me esprimessero già una evidente formazione di tipo totalitario, e che ancora un altro esempio esplicito, pubblico, è dato da Mussolini, quale pochi giorni prima della marcia su Roma, pubblicamente in un discorso dice: il nostro Stato non sarà come lo Stato liberale. Per noi non saranno liberi e uguali tutti i cittadini, ci saranno i simpatizzanti, e va bene, saranno con noi. Gli indifferenti, che stanno a casa, e quelli è bene che siano a casa, e i nemici, quelli li elimineremo. Saggezza del poi? Io non direi, perché è vero che molti protagonisti della lotta politica antifascista non capirono, sottovalutarono il fascismo e non presero seriamente queste dichiarazioni, o non valutarono. Ma è anche vero che il 18 luglio del 22, se non sbaglio, la stampa, credo che l'articolo fosse di Salvatorelli, già diceva chiaramente: questo è un partito armato, organizzato, il cui obiettivo è distruggere lo Stato liberale, non illudiamoci. E lo ripeterà ancora, sempre la stampa e Salvatorelli, nel 23, febbraio-marzo 23, non ricordo bene, quando c'era ormai l'illusione che, passata la sbornia squadrista, il governo Mussolini era un governo di coalizione nazionale e gli ondeggiamenti che si avevano erano ancora ondeggiamenti derivati dal passato, cioè sono residui del passato, queste violenze, il contrasto con gli avversari, residui del passato. Credo che la stampa e Salvatorelli fossero gli unici a dire: no, questo è l'anticipo del futuro. Ma già nel 21 Salvatorelli. Nel 21, poi nel 22, poi nel 23, quando molti erano disorientati e dicevano: vabbè, verrà riassorbito. Quindi secondo me il partito armato che fa la marcia su Roma è un partito il cui obiettivo fondamentale, parlo del partito, non parlo di Mussolini, nella sua ala fondamentale, quella squadrista, è la distruzione dello Stato liberale, l'eliminazione, non hanno un progetto preciso, non c'è dubbio, però la pratica è quella, l'obiettivo è quello, il mito è quello, cioè il nostro Stato sarà uno Stato fascista, integralmente fascista. Il partito nel periodo dal 1922 al 1925 praticamente non esiste in Italia, il partito fascista come organizzazione centralizzata. La direzione cambia diverse volte, varie trasformazioni, ed è evidente che inizia in questo periodo il duello tra Mussolini e lo squadrismo, tra Mussolini e il partito, per stabilire chi deve comandare in Italia. Direi che in questo periodo Mussolini riesce, come capo del governo, attraverso la formazione, l'invenzione del Gran Consiglio e la milizia volontaria, a disarmare, a mobilitare il braccio armato del partito, ma non disarma quello che è il corpo del partito, che è lo squadrismo, che è l'estremismo. E sono convinto di questo perché tutta la politica di Mussolini, nonostante il periodo di governo di coalizione fino al 24, fino al delitto Matteotti, e soprattutto dopo il delitto Matteotti, è anche condizionata dallo squadrismo. E lo sarà soprattutto dal 24 al 25, cioè il 3 gennaio, prima che essere un'iniziativa di Mussolini, è secondo me la risposta che lo squadrismo, sotto forma di partito armato, se volete, ma lo squadrismo, l'estremismo fascista, identificandosi con lo squadrismo, dà alle ultime, gli ultimi colpi di coda dello Stato liberale. E non a caso è Farinacci, il capo del partito armato, in un certo senso l'eroe ideale del partito armato, che dirige il partito dal 25 al 26, che lo riorganizza e che soprattutto in qualche modo cerca di stabilire il primato del partito nei confronti del governo, nei confronti delle opposizioni. E non si può nemmeno sottovalutare che le forme che assume il regime fascista, le leggi che vengono assunte, le operazioni politiche che vengono portate avanti in questo periodo, corrispondono molto a quello che Farinacci chiedeva dopo il delitto Matteotti. È anche vero però che Farinacci non riesce a stabilire quello che era il suo obiettivo principale. Da una parte c'è il capo del governo, dall'altra c'è il segretario del partito, due capi, non uno, che il fascismo ha espresso. Al governo la organizzazione dello Stato, al partito la trasformazione. Rapidamente si può dire che dopo il periodo Farinacci noi non abbiamo più nessun tentativo nella storia del partito fascista di ristabilire il primato del partito e nemmeno l'equilibrio come due enti pari, equilibrati tra capo del governo e partito. Tutta l'evoluzione istituzionale di inserimento del partito dal 26 al 32 nello Stato, subordinato allo Stato, è un processo di esautoramento del partito come forza politica autonoma. È un fatto conosciuto. Sono fatti noti, conturati, poi congiuriati, fino ad arrivare a Starace. Però io mi domando, il regime che progressivamente si forma dalla trasformazione dello Stato liberale, quanto deve all'assorbimento del partito fascista? Lo Stato liberale si trasforma assorbendo quelli che erano gli organi del fascismo, il Gran Consiglio prima, poi progressivamente il partito, che diventa l'istituzione fondamentale del regime. Quando nel 29 i tradizionalisti, i fiancheggiatori, cominciano a parlare di una fine del partito, perché il partito ormai, c'è il regime fascista, che è un regime contro i partiti, perché lasciar sopravvivere il partito fascista, anche Mussolini, che a queste cose non era insensibile, che avrà sempre un'ostilità per le velleità autonomistiche del partito, negherà che si possa mai pensare ad un regime fascista senza il partito. Poi ci ripenserà qualche volta, ma sono voci. Certamente che dal 28-29 e progressivamente, dal punto di vista costituzionale, il partito viene progressivamente inserito in uno Stato che, attraverso l'inserimento del partito, si trasforma, diventa uno Stato di partito. Il segretario del partito progressivamente espande la sua presenza nelle strutture dello Stato. Non ha un potere autonomo, ma ha una presenza reale. Nel campo sindacale, da Turati in poi, dal 27-28 in poi, soprattutto dal 28, quando c'è la distruzione della Confederazione dei Sindacati Fascisti, è il segretario del partito al centro, il federale alla periferia, che presiede i comitati intersindacali. Il segretario progressivamente diventa una figura istituzionale, fino ad arrivare poi, attraverso, fino nel 37, diventa ministro, segretario di Stato, e addirittura nel 41 si stabilisce che non ci può essere legge che riguardi la politica dello Stato fascista che non sia sottoposta all'approvazione del segretario del partito. È una progressione. Quindi, prima mia tesi, il partito non ha una funzione autonoma, il partito viene subordinato allo Stato, ma lo Stato al quale viene subordinato è uno Stato che deve assorbire il partito e che non lo può negare, e diventa un'istituzione fondamentale dello Stato. Perché non ha un'autonomia? Perché non ha il primato del partito? E qui il secondo problema. Mussolini è il partito, che si riallaccia al problema della leadership nei regimi totalitari e le comparazioni tra capi carismatici. Un dato di fatto è che Mussolini, fino al grosso modo 1925, non è il capo carismatico del partito fascista. Già la decisione di creare il partito è una contestazione alla pretesa di Mussolini di essere la guida del fascismo. Dopo la marcia su Roma, le contestazioni all'onorevole Mussolini, era la formula tipica, o all'amico Benito, non si usava più nemmeno, ma prima si usava il compagno Benito, almeno fino al 22, erano continue. Pellizzi, che era un revisionista, non un estremista, diceva: caro onorevole Mussolini, tu non rappresenti il fascismo, tu non sei il fascismo. Come nasce allora questo mito di Mussolini nel fascismo? Io personalmente ho adoperato le categorie di Weber, cioè è a un certo punto, dopo che è riuscito a vincere, un capo che si esalta attraverso la rivalità dei suoi contendenti. Qualcuno dirà, insomma, ricordo chi, le rivalità fra i ducetti potevano essere risolte fra di loro solo esaltando la figura del duce. È un capo che, secondo me, acquisisce delle doti straordinarie agli occhi dei suoi seguaci, perché nonostante tutto è riuscito a vincere e ha portato questa schiera di piccoli borghesi, di intellettuali, dall'oscura provincia alle responsabilità di ministero. È quello che dirà, anche a distanza di anni, Dino Grandi, quando disse: Io personalmente non ho mai subito il fascino di Mussolini, non ci credo. Però, come non sentire che grazie a quest'uomo noi siamo diventati protagonisti della storia? È quello che Weber chiama l'incontro tra un capo che viene ritenuto dotato di una missione e persone che attraverso questo capo si sentono investiti di questa missione. Quindi c'è un elemento, diciamo così, oggettivo, tecnico. La lotta fra i capi esalta Mussolini perché tutti si rivolgono a Mussolini come unico, l'unica fonte poi della decisione. C'è un fatto psicologico mitico. Grazie a Mussolini la classe dirigente fascista è entrata a far parte della storia. E basta leggere poi non le dichiarazioni pubbliche, ma i diari pubblicati postumi di questi protagonisti per avere una descrizione, credo, evidentissima, la conferma della teoria di Weber e la evidenza di come si forma il mito di Mussolini. E poi c'è l'altro elemento, che è, credo, soprattutto strumentale da parte del fascismo, e torniamo al problema del fascismo che salta per la prima volta il problema del mito, il ruolo del mito, che consapevolmente dal 26 in poi il mito del Duce viene utilizzato, consacrato, istituzionalizzato dal partito fascista prima di tutto. Si parla di Starace come il protagonista, il responsabile, il sacerdote, ma in realtà il culto del Duce nasce nel 26 con Turati, continua con Giuliati e poi si esaspera con Starace, ma c'è una progressione che è logica da un punto di vista, sì, la logica mitica, è logica, ha una sua coerenza, ha una sua costanza, un suo sviluppo progressivo, che si vede per esempio se uno guarda le gerarchie del partito fascista attraverso i vari statuti. Progressivamente Mussolini dalla gerarchia viene posto al di fuori della gerarchia e poi addirittura è il capo del fascismo, cioè non è più il capo del partito. Dal punto di vista istituzionale, Pombeni dirà domani tutti gli altri aspetti, ma è certo tutto il sistema politico fascista si configura come una progressiva concentrazione del potere nel capo del governo, duce del fascismo. E qui viene il problema grosso. Il partito lo abbiamo, un regime lo abbiamo, il duce lo abbiamo, e che cos'è allora lo Stato fascista, il mito dello Stato totalitario fascista? E quali sono le prospettive a cui si accennava questa mattina di sopravvivenza del sistema politico fascista al duce? Ora, innanzitutto c'è da dire che i segretari del partito, anche se accettano questa posizione subordinata, non accettano affatto la passività, l'inerzia del partito. Non l'accetta Turati e per questo viene eliminato. Non l'accetta Giuriani, erroneamente considerato un segretario di trapasso, una figura incolore, e invece una figura che potenzia il partito, perché durante il periodo di Giuriati, che noi abbiamo due iniziative importanti, la costituzione dei fasci giovanili di combattimento e la ripresa dell'attacco contro la Chiesa Cattolica. E poi con Starace, il quale però, nonostante la mediocre intelligenza, aveva un senso del partito, un senso della organizzazione politica e anche un senso della politica maggiore di quello che gli si attribuisce, tanto è vero che non solo riesce a mantenersi segretario del partito fino al 39, dal 31 al 39, ma è nel suo periodo che riesce in alcune operazioni politiche interne importanti, come la eliminazione di alcuni importanti protagonisti come Arpinati. Già aveva eliminato Turati. Poi riuscirà a eliminare, secondo alcuni, Giuriati, sarà lui quello che innescherà la bomba che farà cadere Giuriati, ma soprattutto è dal 1931 al 39 l'uomo che cerca in ogni modo di affermare la presenza del partito in tutte le possibili istituzioni. Tanto che sembrerebbe, non ci sono le prove, che il vero motivo della sua caduta nel 39 non fu il fatto che ebbe uno scontro con Bocchini, capo della polizia, ma perché pare che volesse mettere le mani del partito anche sulla polizia. È un aspetto della politica di partito di Starace che è ancora da studiare e purtroppo si deve procedere molto per approssimazioni, ma che certamente può essere documentata da tutte le crescenti influenze che ha il partito nella società italiana, il controllo istituzionale e reale che ha sulla società italiana. Nel 1932 si può dire il regime fascista è costituito con le sue strutture fondamentali, ma è esaurito? E qui il terzo problema, quello dello Stato totalitario, del ruolo del duce, del partito in queste evoluzioni. Secondo me noi abbiamo nel fascismo una dinamica continua tra l'autoritarismo e il totalitarismo. L'autoritarismo schematicamente rappresentato da tutte quelle forze di origine pre-1914 per le quali lo Stato liberale doveva essere distrutto e sostituito da uno Stato autoritario. Lo Stato creato dal compromesso tra il fascismo e le vecchie classi dirigenti nel 1932 ha raggiunto ormai conciliazione, plebiscito, ha raggiunto la sua stabilità, quindi è un processo ormai conchiuso. La vita di questo Stato è quella di sopravvivere, di continuare. Dall'altra parte credo ci sia invece la tensione originaria del fascismo totalitario, che in gran parte si manifesta anche se simulata nel partito, che questo accordo, questo regime non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Che il compromesso non è una base definitiva, ma è una situazione da superare progressivamente. E credo, se si legge in questa ottica la politica del partito, le iniziative che il fascismo assume dal 31 con un rinnovato attacco alle organizzazioni cattoliche, poi un nuovo attacco nel 38, al 37, quando appunto il segretario del partito diventa ministro di Stato, alla Camera dei Fasci delle Corporazioni, che è in gran parte una riforma voluta dal partito e pare che il progetto principale, cioè la totale eliminazione del plebiscito, del consenso popolare, sia stato voluto e imposto da Starace, che era faceva parte della commissione, il conferimento a parità del primo maresciallato dell'impero al re e a Mussolini sono, secondo me, tutte indicazioni che dal 32-33 in poi la suggestione del fascismo totalitario, il mito di uno Stato totalitario integralmente fascista, ricomincia a mettersi in moto. Non direi che ci sia un disegno preciso, ma gli avvenimenti hanno una loro logica. Poi le leggi razziali possono essere viste, e qualcuno le ha viste, anche in questa ottica. Cioè il fascismo deve assumere il razzismo come una forma radicale di politica. Basta leggere quello che dichiarava Bottai e quello che molti giovani fascisti, poi passati per vera autocritica ad altre posizioni, ma che in quegli anni, dal 38 in poi, sono accaniti nella politica razzista e antisemita, perché rappresenta finalmente una radicalizzazione nuova, dopo tutti i compromessi che si erano avuti. Resta un problema, in questo quadro del compromesso, il rapporto con la società borghese, con il capitalismo, con le forze economiche. Ora, qui rientriamo in una situazione nella quale mito e realtà in qualche modo coincidono anche se poi si modificano. Cioè il fascismo non ha mai dichiarato di voler distruggere la proprietà privata, di voler abolire la società di classe. Lo Stato totalitario non sarebbe stato uno Stato in qualche modo socialista. La divisione delle classi era inevitabile, insormontabile. Nel mito dello Stato totalitario però si pensava che si poteva creare una comunità politica dando a tutte le classi la stessa fede. E qui siamo nell'utopia, ma che va presa in considerazione probabilmente per capire certi fatti e certe iniziative, che questo stesso tipo di socializzazione politica del fascismo sulle classi e sulle generazioni avrebbe dovuto portare alla fine ad una specie di paradiso dantesco dove non tutti godono nella stessa quantità della grazia, ognuno ne gode in misura in qualche misura, in qualche grado, ma tutti sono contenti dove stanno. Cioè praticamente è un regime che prefigurava attraverso l'acquisizione di questa fede fascista, moralità fascista, ed era un processo che doveva passare attraverso tre fasi contemporanee di organizzazione, integrazione e fascistizzazione, doveva portare sostanzialmente a una società bloccata, cioè dove le classi sarebbero rimaste quelle che erano, ma sarebbe scomparso l'antagonismo di classe perché tutti vivevano nella stessa fede, e che avrebbe avuto come classe dirigente la nuova aristocrazia, l'altro elemento fondamentale del fascismo che non verrà mai messo in discussione, che lo Stato è uno Stato aristocratico, sia pure come si diceva di aristocrazia aperta, e che avrebbe dovuto, e qui passiamo all'ultimo elemento, garantire la sopravvivenza del fascismo come sistema politico. Contrasto tra Duce e sistema politico. Io ho avuto l'impressione, leggendo gran parte della memorialistica fascista, che ci sia un accordo generale fra i gerarchi nel dire: fino al 32 Mussolini era un grande uomo, abbiamo costruito un sistema politico stabile, solido, che godeva il consenso e che si presentava al mondo come un modello di alternativa sia alla democrazia liberale in crisi, sia alla alternativa concorrenziale del bolscevismo. Poi questo Stato lo ha distrutto Mussolini, che pure si dichiarava servo dello Stato, primo servitore dello Stato, che pure esaltava il mito dello Stato, ne ha distrutto la possibilità di sopravvivenza. E secondo me in questo c'è un elemento di verità. Un elemento di verità, perché indubbiamente nel fascismo c'è un conflitto tra totalitarismo e cesarismo. Il fascismo presente è una contraddizione sulla quale io ancora sto ragionando, sto studiando, perché è l'unico caso, secondo me, di una dittatura che è insieme dittatura cesaristica, ecco perché io parlo di cesarismo totalitario, ma che ha tutte le strutture totalitarie per integrare la società dentro il partito e attraverso il partito, entro questo Stato che fra l'altro è uno Stato, secondo i fascisti, in continua costruzione. E alcuni riflessi sono nel problema della costituzionalizzazione del Duce. Ora, io in un primo momento, alcuni anni fa, ero arrivato alla conclusione che, stante le varie leggi del sistema fascista sulla posizione del capo del governo e Duce del fascismo, si era ormai arrivati alla vigilia della guerra a prefigurare la istituzionalizzazione della figura del Duce del fascismo. E c'è un documento singolare, l'introduzione alla raccolta di leggi del 1939, porta chiaramente scritto: con la legge della Camera dei Fasci delle Corporazioni, con il primo marescialato dell'impero, eccetera, eccetera, ormai siamo arrivati a costituzionalizzare la figura del Duce, che sempre più, ed era un'ambigua formula, capo del regime che sempre più si identifica con lo Stato. Se uno avesse voluto leggere questa in chiave così radicale, avrebbe detto: beh, se il regime si identifica con lo Stato, il capo del regime è il capo dello Stato, il re dov'è? È un aspetto. Però poi ci sono altre cose che mi hanno reso più perplesso. Innanzitutto, la letteratura, questa possiamo dire è l'aspetto, la facciata giuridica, anche se Pombeni avrà da descrivere il dibattito dei giuristi, Chinienti ed altri, cioè Duce, il capo del governo, è istituzionalizzabile, è una figura costituzionale. Ma io vorrei vederlo invece dal punto di vista dell'esistente, come i fascisti vivevano questo problema, perché è il loro grosso problema. La maggior parte dei teorici di grande livello, come Costamagna, o di piccolo livello, come i giornalisti, i pubblicisti, lo stesso, o i piccoli capi, allora piccolo capo purtroppo, per la sua posizione di totalitario, come Farinacci, il problema se lo ponevano. Cioè, noi abbiamo creato un sistema politico che vuole sopravvivere e che addirittura si presenta come la soluzione occidentale e borghese alla crisi del capitalismo liberale e alla minaccia del socialismo. Come sopravviveremo se non risolviamo il problema del capo? Una volta che abbiamo creato un sistema politico che ha abolito la divisione dei poteri e l'ha concentrata nella figura del capo del governo, che è il duce del fascismo, quando il duce scomparirà, chi potrà rivestire questo ruolo che era, in quanto duce del fascismo, un ruolo carismatico? Costamagna dirà nel 38, e lo dirà esplicitamente, e credo che rifletta abbastanza bene il problema, proprio l'angoscia dei teorici fascisti, ma anche dei politici fascisti, che il problema del capo è il più delicato fra tutti i problemi aperti dall'organizzazione dello Stato nuovo, perché se questo Stato deve diventare un sistema permanente oltre la dittatura eccezionale del duce, esso non può dispensarsi, in ragione della sua struttura gerarchica, dalla funzione di un capo. Però qui già si pone in dubbio che si possa risolvere questo problema, non solo dal punto di vista costituzionale, perché fra l'altro tra le varie discussioni che vennero fatte per la preparazione della nuova Camera dei Fasci delle Corporazioni, in cui si poneva il problema, ma il duce come c'entra in questa Camera? Di diritto come il capo del automaticamente come entrano gli altri deputati provenendo per la funzione che hanno nel partito e nelle corporazioni? O perché? Ci fu qualcuno che disse, no, un momento, mettiamo in chiaro che entra perché è Mussolini duce capo del governo. Ma perché lui, il problema poi, non potrà essere posto negli stessi termini per il suo eventuale successore, il quale non potrà rivendicare la qualifica di duce, che era una qualifica, secondo me, sempre di tipo carismatico, ma legata a Mussolini. Il conflitto è stato risolto dalla guerra, nel senso che il problema della successione a Mussolini non si è posto solo nel momento in cui il Gran Consiglio ha deciso di defenestrarlo. Ma io vorrei che si faccia, per capire la situazione di questo periodo, uno sforzo di non immaginare questa conclusione, che altera un po', e concludo col discorso delle comparazioni, che altera un po' la possibilità di comparazione tra questo tipo di regime cesaristico a partito unico con altri che sono sopravvissuti. Perché secondo me manca la condizione di poter valutare la possibilità di sopravvivenza di un sistema di questo genere. Però sono anche convinto, ma è una di quelle convinzioni che sottopongo a discussione, che la struttura che lo Stato aveva assunto alla vigilia della guerra, il peso che il partito aveva come macchina di potere alla vigilia della guerra, era tale da poter consentire un nuovo duello tra fascismo e forze tradizionali. E non sono del tutto convinto che tra i motivi dell'entrata in guerra di Mussolini, dell'Italia, del fascismo, non ci fosse anche la speranza che una guerra vittoriosa avrebbe finalmente garantito a Mussolini e allo Stato fascista la possibilità di riaprire i conti, non, e questo è sempre un equivoco che ritorna quando si parla di totalitarismo fascista, non ad una omogeneizzazione delle classi, ma ad una risoluzione del problema con la monarchia, con l'esercito. Non vorrei essere proprio utopistico dal punto di vista fascista, ma con la Chiesa, che era, secondo me, il problema più... nel diario. Infatti, però, ecco, io, questo è una di quelle cose che delle quali sono convinto, perché ho tanti elementi, ma se li incastro insieme non mi danno un ragionamento preciso. Ho lasciato tante cose perché spero vengano fuori nella discussione, e grazie. Ringrazio il professor Gentile per questa lucida esposizione. Forse tradurrò in tedesco: Ich will etwas einige Punkte ins Deutsche übersetzen. Ist das nötig? Ist nicht nötig? Nicht nötig. Ah, benissimo. Come? Andare a stare in ordine. Non è di essere in ordine. Ah, sono in ordine. Sergo. Allora apro la discussione. Chi si iscrive? Prego, dite sempre il nome. Cider. Cider. Benissimo. E poi per ora? Petersen? E poi? Beh, convegni, no? Ecco, allora intanto questi tre. Alzo, professor Scida. Sì, non sono sicuro che sia in grado di dire tutto in italiano che voglio dire, vorrei sentarlo almeno. Sono d'accordo in gran parte della sua relazione, specialmente sul punto che il regime non sia stato finito nel 22 oppure nel 24-25, che invece sia stato sempre in sviluppo e che sia stato qualsiasi di una lotta continua nel regime fascista. Anche sono in qualche punto sono d'accordo con la tesi che proprio il problema della continuità della dittatura personale di Mussolini sia stato uno dei punti cardinali del tutto il regime. Mi ricordo che Farinacci proprio nel 25, quando lui è stato segretario generale del partito, voleva qualsiasi di un ordine di successione, e se mi ricordo bene questa c'è stata una delle ragioni del suo fallimento come segretario generale, perché naturalmente Mussolini lo voleva. Hitler invece lo ha fatto nel 39, ha fatto Göring come successore e il mio allievo Cuba adesso ha trovato un altro successore del 20, no, del 34 già, anche scritto in tre versioni, Göring diventasse successore di Hitler nel caso della morte del Führer. Mussolini invece non lo ha fatto mai. Göring, Hess, com'era la... No, Göring. Göring, poi Hess, secondo me. No, Hess, Göring. Nel 39 però disse Göring, disse fece l'ordine. Sì, anche nel 34, anche Göring. Due volte, non Hess. Non ha in 39, ha detto che sa, venisce... Für die Partei, aber nicht als... Führer, am Reichstag hat er was gesagt, am 39, am Kriegsende. Ja, er hat aber ein schriftliches... Göring, er hat drei Namen gemacht. Ja, Göring, Hess und Goebbels, oder nein, Goebbels war nicht, wer war der Dritte? Das ist noch... In der Rede über Kriegsende. Ja, ich glaube es noch Lunde. 39. Io l'ho sentito alla radio, ricordo perfettamente, e i giornali francesi a Parigi ironizzavano perché dicevano se io muoio Göring, allora si vede la caricatura di Göring che è tutto felice. Poi aggiunge se Göring muore, Hess, e si vede Hess tutto felice. Poi se Hess muore, un terzo nome che non ricordo, allora si vede Hess tutto infelice. No. Questo non mi ricordo. Il discorso dell'entrata di guerra. In pubblico, sì. Mi ricordo soltanto in un scritto segreto, insomma, non di una dichiarazione pubblica, forse una cosa diversa, ma non sono sicuro. No, al Reichstag ha fatto tre nomi. Sì. Göring, Hessi, non ricordo il terzo. Es gibt verschiedene Versionen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Senat, den Plan, einen Senat einzurichten. Ja. Ja. Also nicht wie die faschistische Großrat, aber etwas Ähnliches wie den faschistischen Großrat. Und die Frage der Nachfolge hat Hitler im Grunde offen gelassen. Ja, schriftlich. Er hat von Göring gesprochen und Hess, das stimmt auch, Hess in Bezug auf die Partei. In der Reichstag, nel discorso Reichstag per. Parlando della dichiarazione di guerra, disse se io muoio Göring, se Göring muore Hess muore, non ricordo più chi, se Goebbels o... Insomma, il problema è lo stesso. Also das Problem ist, Hitler hat bewusst offen gelassen. Er hat natürlich von Göring gesprochen und es war eigentlich auch bekannt, dass Göring dann... Aber es gab nie eine... ausgesprochene Festlegung. Er hat es gefunden, der Buch hat es gefunden, schriftlich, 1934, die werden sehen können. Er hat ja seine Biografie geschrieben über Göring. Er hat gar keine Rolle gespielt. Gut, das ist eine andere Sache. Es gibt viele geheime Sachen, die aber keine Rolle. Nein, von Hitler gezeigt ist, von Hitler gezeigt, das ist selbst, mit seiner Handschrift, nicht gefälscht, nicht von Kugel. Ich wollte dire, che forse proprio questo è stato. C'è stato veramente un problema centrale. Le domande che vorrei proporre, che vorrei dire qui è che perché lei ha parlato non troppo dei fiancacciatori, vorrei dire dei fiancacciatori, vorrei dire che siano state almeno tre possibilità di un sviluppo, una dittatura del partito, cioè la cosa che ha voluto Farinacci e i suoi, una dittatura però anche dello Stato in certo senso, una dittatura del modello Rocco, quasi, oppure Pedazzoni e tutto questo che dipende dei sentimenti di questo genere. E che cosa c'è stato realizzato? Una dittatura personale, alla fine c'è stata la dittatura di Mussolini. E tutte le cose delle quali lei ha parlato, per esempio del medio duce, non c'è stato, a mio parere, un mezzo di governare il partito, ma anche un mezzo di avere il consenso dei fiancacciatori, perché tramite il mito di Duce ci è stato possibile di avere, di organizzare, qualsiasi come Vittoria di Grazia ha scritto, il consenso anche nei confronti della borghesia non fascistata, nei confronti anche dei fiancacciatori che sono rimasti fuori del fascismo, come la monarchia, la polizia, le forze armate e la chiesa. Questa è una grande differenza tra l'Italia e la Germania, perché in Germania non c'è stata nessun gruppo, nessuna potenza fuori del nazismo. Insomma, io vorrei dire che proprio la dittatura personale di Mussolini non c'è stato un non è cresciuto per caso, c'è stato invece il mezzo anche qualsiasi di un programma di Mussolini, non un programma come ha avuto Hitler, ma in certo senso sì, si può vederlo quando si legge per esempio il Popolo d'Italia già negli anni dei primi anni di 20. La lettura del Popolo d'Italia in questo senso è molto diversa, per esempio, dalla lettura del regime fascista, una nuova di Farinacci. Andare Mussolini, e dopo anche Turati, lei ha perfettamente ragione, è stato quasi una portavoce di Mussolini, anche una portavoce di un tipo di regime, di una dittatura nella quale Mussolini doveva essere quasi il tramite, no, per mediatore fra fiancacciatori e partito. E non credo, non so che sia la ragione, è molto interessante di vedere che alla fine degli anni di 30 forse sia stato possibile una nuova lotta fra fiancacciatori e partito, e che sia stato possibile anche in questo tempo un cambiamento del regime. La direzione poteva essere soltanto un regime dittatoriale senza Mussolini, non un autoritario senza Mussolini, monarchico, qualsiasi, non lo so. Ma in questo Rahmen bewegt sich die Debatte und die Auseinandersetzung bis zum Schluss des Regimes, bis zum 25. Juli 1943, wo ja auch noch einmal sowohl die Partei... A questo punto bisogna della traduzione, chiedo scusa. Vorrei dire che anche alla fine del 43, nel 25 giugno, le due possibilità di una dittatura di partito e una dittatura autoritaria o monarchico sia aperto, se si vuole, quando è fallito Mussolini. Posso rispondere? Ma forse, se vuole rispondo subito, se preferisce. Forse è meglio che rispondo subito. Va bene, quanto sono le domande? Ma il professor Bracher voleva dire. Nur ein Wort dazu. Also Göring beruft sich ja darauf 1945, dass er Nachfolger Hitlers ist, und wird daraufhin von Hitler abgesetzt. Hitler hat seine Führerbefehle immer nur bis zum nächsten Führerbefehl ernst genommen, und das war auch die Verfassung des Dritten Reichs. Insofern hat es gar keinen Sinn, hier über Nachfolgeregelung zu sprechen. Die konnte jederzeit überholt werden. Das wusste auch jeder, dass das keine gesetzliche Bindungskraft hatte. Zweitens, 1945 dann, als die Nachfolge Hitlers anstand, fiel man zurück auf die Weimarer Verfassung. Man hat nicht das Regime fortgesetzt, sondern Hitler selbst setzt ein, einen Reichskanzler, einen neuen, und ein neues Staatsoberhaupt. Das heißt also, die Verfassung der Weimarer Republik, yeah. Präsident, ja, Dönitz, ja, Reichskanzler, wie heißt er? Schwerin von Groseck, der bisherige Finanzminister. Die Verfassung des Dritten Reiches war die Verfassung Hitlers, ja, allein, und eine Reserveverfassung war immer noch die Weimarer Verfassung. Die gab es immer noch. Mehr ist über das Dritte Reich, die Verfassung des Dritten Reiches, nicht zu sagen. Es gab Pläne eines Senats und einer Ausgestaltung. Die Ausgestaltung des Faschismus war viel elaborierter als die Ausgestaltung des Vorrei tradurre, sì, perché sì, altrimenti diceva il professor Bracher che Hitler si parlava di Göring come successore, ma intendeva sempre così, come un'ipotesi che lui poteva revocare a qualsiasi momento. Tanto è vero che quando Göring una volta fu, mi pare, alla fine del 44, principio del 45, 45 sì, principio del 45, parlò di se stesso come successore, Hitler immediatamente lo destituì dalle sue cariche, perché non aveva successori. Quando però la successione si aprì sul serio, cioè lui era isolato nel bunker a Berlino, allora ripiegò sulla Costituzione di Weimar e nominò un capo dello Stato, l'ammiraglio Dönitz, e un cancelliere nella persona di uno di cui non ha capito il nome. Ecco, risponda pure. Allora, innanzitutto c'è da dire che se ci fosse stato immediatamente il problema della successione di Mussolini, non era più il re che poteva liberamente, secondo lo statuto, affidare l'incarico ad un altro, ma doveva, se non altro, sentire il parere del Gran Consiglio, il quale, in assenza del Duce, doveva essere presieduto dal vice segretario del Gran Consiglio, che era il segretario del Partito Fascista. In teoria si potrebbe dire che, nell'ipotesi di una necessità di successione, sostanzialmente era il partito che dava al re le indicazioni del successore. E ci fu, almeno stando a quello che ha detto Augusto Turati, un momento in cui Mussolini, turbato da qualche preoccupazione, in Gran Consiglio, forse era malato, forse temeva altri attentati, pose il problema della successione. Fu l'unica volta sì. che ne parlò. Sì, sì. In questa circostanza Turati disse, va bene, siccome Mussolini disse c'è il vice segretario, io convoco il Gran Consiglio e decidiamo. Ci fu la sollevazione dicendo, ma tu non morirai mai, tu sei immortale. Certamente tutti i membri del Gran Consiglio non accettavano questa ormai non delega di successione al segretario del partito. È vero? È falso? Io penso che possa essere vero. Quando Farinacci pone il problema, Mussolini dice, pare che abbia detto, la lista, che è una famosa lista che il Gran Consiglio deve avere, ecco, è già pronta. Ad altri pure ha detto che era pronta, non si è mai vista, non si è mai trovata. Ma il problema di fondo, secondo me, era che costituzionalmente il regime fascista, così com'era, aveva i meccanismi per la successione. Era il Gran Consiglio, si presentava al re la lista dei nomi e il re sceglieva. Il problema che travaglia i fascisti era, da una parte, che era un problema così, di politica reale, non di teoria, era ma chi potrà di noi diventare il duce? Ed è un problema tanto reale che il povero Bottai nel suo diario si affanna a cercare di capire, di trovare una soluzione. Perché? Perché tutto il sistema politico fascista è considerato non solo ottimo, anzi quasi perfetto, addirittura viene considerato il modello di organizzazione moderna per la società di massa che prevede il partito unico e lo Stato come l'ha fatto il fascismo. Però c'è il problema che, avendo al vertice un potere carismatico, il potere del duce, e di necessità per la sua struttura un capo, chi poteva avere il prestigio? Ma è la paura della monarchia e della mafia. La risposta che dava Bottai era, si può pensare al successore Umberto, sì. che può unificare la qualifica di re e la qualifica di duce. Il trapasso non sarà grave. Perché? Perché in uno Stato fascista la monarchia non è monarchia costituzionale, ma monarchia a capo di una organizzazione unitaria. Ma secondo me questo contrastava con altre posizioni fasciste, del fascismo nella mia distinzione totalitaria contro quello autoritario, che invece pensavano alla possibilità di eliminare la monarchia. Certamente ho parlato poco dei fascisti autoritari perché, volendo insistere sul mito totalitario, l'argomento era saltato. Però dico che sostanzialmente nel 32-33 il peso, il ruolo dei fascisti autoritari era molto diminuito. Ma lei parla del 39? No, no, ormai nel 32 noi abbiamo che i grossi calibri del movimento... Ma nel 39 è una cosa diversa quando si parla di Sarace. Sì, nel 39 secondo me c'era non tanto il pericolo dei fascisti autoritari, quanto secondo me la divisione all'interno del fascismo per la successione, il pericolo che di questo approfittassero le forze tradizionali, ma sostanzialmente la monarchia, per recuperare tutto quel potere che era stato corroso con la nascita del regime fascista. Le ipotesi, dittatura monarchica, può essere lasciando il partito fascista, delegando un altro, e probabilmente quest'altro avrebbe potuto giocare sulla stessa situazione su cui aveva giocato Mussolini: se gli altri litigano, il mio potere di mediazione cresce. Come la Romania, per esempio. Che probabilmente era quello a cui pensavano i fascisti che la notte del 25 luglio dimettono Mussolini. Dittatura di partito, qui io ho un altro problema su quale non saprei dare una risposta decisa, perché avendo asserito, e ne sono convinto, che il mito dello Stato ha un ruolo importante nella mentalità, nel modo in cui i fascisti guardavano al futuro e anche a loro stessi, la dittatura di partito non viene mai teorizzata. Farinacci parla del partito che deve essere il promotore, ma soltanto poi negli anni... Parla anche del partito come nell'Unione Sovietica, come modello anche per l'Italia. Sì, ci sono... Questa è una cosa interessante, io non conosco, ma so che, per quanto mi risulta, tutta la posizione dei fascisti, teorici, pubblicisti, è che il partito sarà sempre subordinato allo Stato, che il mito fondamentale è lo Stato. Che cosa poi fosse questo Stato è un problema che probabilmente non riuscivano a risolvere, e quale sarebbe stato il ruolo del partito. Ma c'è un'affermazione curiosa, ma che riflette specialmente l'orientamento dei giovani. Io ho letto alcune di queste tesi che venivano presentate ai vittoriali negli anni 30-39, in cui sempre più si faceva strada questa affermazione che viene fatta da Pellizzi: il partito deve fascistizzare lo Stato, ma non può sostituirsi allo Stato, ma il partito non è ancora interamente fascistizzato. Può sembrare un gioco di parole, ma sono tanti giochi di parole di questo genere che secondo me devono essere decifrati per capire qual era la prospettiva nella quale i fascisti si muovevano nel momento in cui il problema della successione cominciava, se non altro, ad essere sentito drammaticamente. Perché? Perché il regime appariva ormai solido, costituito. E allora questa famosa rivoluzione totalitaria, questa marcia in avanti, quando inizia? Secondo me Mussolini con alcune iniziative cerca di rispondere anche a questo, e sono anche convinto che a quel punto, cioè dagli anni 36-37 in poi, il fascismo comincia anche a non curarsi più del problema del consenso raccolto in tutti i ceti sociali grazie al mito del Duce. Il mito del Duce ha funzionato come collettore di consensi anche presso tutta l'opinione che non era fascista. Ma perché a questo punto noi abbiamo una documentazione abbastanza vasta che comincia a franare il consenso non solo tra ceti tradizionalmente poco sensibili, ma tra la borghesia, tra le classi medie? Quale logica ha spinto Mussolini e i fascisti a prendere delle iniziative che di per sé mettevano in pericolo questo consenso maggioritario e quindi anche questo equilibrio e compromesso che si era costituito? È un problema che poteva essere risolto, o secondo me, pensando a quello che è accaduto con Scorza negli ultimi mesi, cioè restituendo al partito, cioè così, la sua anima primitiva dello squadrismo. E questa è l'ipotesi che, dal punto di vista del fascismo, è quella che forse mi convince di più, perché io ho sostenuto e ne sono convinto che il fascismo di Salò non è, il fascismo radicale, violento, non è soltanto il prodotto della guerra civile, del desiderio di vendetta. Secondo me è la maturazione, il precipitato delle tendenze che il fascismo stava assumendo nella fine degli anni 30. Quel problema del terrore che i teorici del totalitarismo escludono dal fascismo, secondo me non era un problema negato, era un problema rinviato, se fosse stato necessario. Salò non è solo questo, ma secondo me non è un salto, è un processo che già nella posizione di Scorza, brevi momenti, si comincia a vedere. Non tanto perché si dice il partito comanda lo Stato, deve, no, perché il partito deve riprendere l'iniziativa della comunità dei puri, della comunità dei combattenti, che era il linguaggio del vecchio squadrismo, e c'è il recupero del vecchio squadrismo a livello sia dei vecchi squadristi che vengono richiamati, sia della iniziativa. Candeloro vi ricordava che lui ha assistito a picchiature da parte di... si organizzarono le squadre di nuovo, gli episodi sono tanti. Questa poteva essere probabilmente una soluzione dal punto di vista fascista, se la classe dirigente fascista fosse stata in grado di fronteggiare, al momento della crisi, i poteri tradizionali. Però ma c'era anche a Salò proprio questo rancore per le occasioni mancate. Non a caso poi a Salò viene fuori tutta la retorica contro il fascismo parentesi. Cioè, il regime è stata una parentesi. Noi siamo il vero fascismo, ma secondo me erano radici che erano presenti già nel fascismo degli anni prima della guerra. Sì, ma le occasioni mancate sono presenti dall'inizio, sì. Perché evidentemente sin dall'inizio si sarebbe dovuto fare questo, quell'altro, quel terzo, eccetera. Farinacci naturalmente poteva vantarlo, vantare la primogenitura, ma anche tutti gli altri, insomma, perché si è messo a quel posto Ciano, perché non si sono eliminati gli opportunisti, a parte l'occupazione tedesca, la guerra civile, eccetera, sfondo di Salò e rancore verso se stessi e verso quelli che le hanno fatte mancare per le possibilità che c'erano e che non sono state sfruttate. E secondo me anche però la via che il fascismo stava prendendo. Sì, ma perché più andava avanti il regime fascista, più le occasioni mancate si accumulavano. Professor Petersen, lei può parlare in italiano? Sì, sì, io vorrei intervenire. Vorrei fare prima un accenno a quel dibattito che abbiamo fatto ieri sul totalitarismo, perché mi pare interessante che gran parte della storiografia italiana degli ultimi 20 anni ha negato la concettualizzazione di totalitarismo in generale per questo fenomeno. Se prendiamo Vivo fondamentale di Equavone, che dice è un totalitarismo soltanto di facciata, incompiuta. Chi dice questo? Equavone. Ah sì. Se prendiamo il libro di Domenico Fisichella, l'unico che ha concettualizzato questo concetto nella sua analisi del totalitarismo, e lui dice questo è un sistema autoritario di mobilitazione, non è totalitarismo. E questo è la stessa cosa anche per la Hannah Arendt, che dice fino al 38 almeno il regime fascista è una tradizionale dittatura autoritaria, vecchio stampo. Così, penso che sia molto interessante la sua affermazione che abbiamo almeno nel 25 questa spaccatura, questo profondo spacco tra vecchio sistema liberale e la nuova realtà di questo Stato totalitario, che collima completamente con gli osservatori costituzionalisti tedeschi degli anni 20. Heller, per esempio, che dice che il regime fascista, il fascismo dal 25 in poi è una profonda novità, in tutta la vita costituzionale europea è la fine dello Stato di diritto del secolo XIX e la fine di 200 anni di sviluppo del diritto costituzionale europeo. Non è soltanto Heller, Leipold e Carl Schmitt e Becquerel, sono tutti quanti che dicono la stessa cosa. Quindi trovo molto interessante la sua posizione, alla quale accedo volentieri. Altra cosa che vorrei domandare, la sua differenziazione tra fascismo autoritario e fascismo totalitario sarebbe un po' la stessa cosa, una domanda della differenziazione che ha fatto De Felice tra fascismo movimento e fascismo regime. Terza questione, lei dice che fino al 25 il mito di Mussolini non è ancora sviluppato, non esiste qua. Nel partito. Nel partito. Non è il capo del partito. Non è il capo carismatico in discussione. Poi preciso. Se penso anche all'interno del partito, espressioni di Balbo, abbiamo parlato già di questo, di Balbo, anche di Farinacci, di Giuliani, di Bottai, di tanti altri, c'è già presente dal 22 poi massicciamente questo mito dell'uomo unico, dell'uomo più perfetto della storia italiana degli ultimi 500 anni, dell'uomo più perfetto del XX secolo e così via, c'è quella adorazione e lei giustamente ha accennato a quel finale delle memorie di Giuriati, che è una cosa stranissima, scritto nel 1944, che dice: io ho accettato quest'uomo Mussolini come il più grosso dono di Dio al popolo italiano. Purtroppo questo Mussolini poi dal 32, e giustamente accennato a questo fatto, dal 32 tradisce la riduzione fascista che abbiamo fatto, no? Ma poi chiude. Io adesso c'è il crollo totale di questa dittatura, di questo sistema, ma io spero in Dio che ci sia nel futuro un'altra figura che riconduce l'Italia alle rette della civiltà come aveva fatto Mussolini. Così io ho l'impressione che quella formazione, non parliamo dei fiancheggiatori, non parliamo del popolo italiano, non parliamo anche della legittimazione di questa figura mitica di Mussolini che viene dall'esterno, dall'estero, io ho l'impressione che dal 22, almeno dal 22 in poi, quel mito esiste, e pensiamo anche al fatto che la opposizione interna al movimento e poi del regime fascista finisce praticamente nel 21. L'ultima rivolta è quella di Marsic, mi pare, nel Veneto, che è del marzo 22. Dopo il marzo 22 non c'è più una opposizione, diciamo, che potrebbe organizzare la sostituzione di Mussolini. Il 24 sì. Alla fine del 24. Ultima questione. Lei ha adesso delineato questo sviluppo costituzionale, anche giuridico, anche di dinamica di movimento del fascismo. La mia questione sarebbe: quale importanza, quale valore abbia avuto la politica estera? Littleton chiude il suo volume sulla nascita della dittatura fascista con un'esposizione della situazione degli anni 30 e dice: per il regime fascista c'erano due alternative, due scelte di possibilità: o l'alleanza con la Germania nazista, che voleva dire anche all'interno il rilancio del fascismo totalitario, del fascismo movimento, del fascismo partito, o l'alleanza con le potenze occidentali, che voleva dire costituzionalizzazione, rilancio della monarchia, rientro dell'Italia fascista come pacifier, to appease the minor dictator, come diceva la diplomazia inglese. il rientro dell'Italia nella grande coalizione anti-hitleriana che sembrava nella logica dell'inclusione. Così, quale Stellenbiers, quale situazione le aggiudica alla situazione della politica estera negli anni 30? Allora, frattura nel 25. Io non sono così drastico nel dire che fino al 25 abbiamo lo Stato liberale, dopo il 25 abbiamo lo Stato totalitario. Cerco di vedere questo passaggio come un processo continuo che può essere fratturato a seconda dei punti di vista in alcuni punti. Dico personalmente che secondo me la legislazione tra il 25 e il 26 indubbiamente già rappresenta, tutte le leggi fasciste, già rappresenta una netta frattura con lo Stato democratico pluralistico. Però non è sufficiente secondo me per dire ecco, siamo già di fronte allo Stato totalitario, perché secondo me bisogna arrivare ancora al 28. Legge sulla costituzionalizzazione del Gran Consiglio, ma prima ancora al fatto che la rappresentanza politica viene sostanzialmente delegata al Gran Consiglio che sceglierà i futuri deputati. Poi alla sistemazione del partito fascista in questo Stato, per cui io penso che la configurazione dello Stato totalitario in Italia come struttura è evidente nel grosso modo diciamo nel 32, cioè io direi nel 32 noi abbiamo una frattura non solo rispetto allo Stato liberale ormai definitiva, allo Stato tradizionale ormai definitiva, ma anche abbiamo una fase dalla quale si passa dal compromesso alla volontà di rimettere in discussione il compromesso sul quale si basava il regime 25 costruito dopo il 25. La mia distinzione fascismo autoritario e fascismo totalitario non corrisponde alla distinzione fatta da De Felice movimento-regime, se non in parte, perché il problema è nato proprio dalla distinzione fatta tra un movimento che sarebbe il dinamismo rivoluzionario e un regime che sarebbe il contrario di questo dinamismo rivoluzionario. Questo secondo me può indurre ad un equivoco, che è quello di dire, dunque, i fascisti che erano nel regime, che approvavano il regime, non erano totalitari, perché i totalitari sarebbero tutti nel movimento e stranamente poi si pensa che il movimento sia tutto di sinistra. Ora, secondo me, la distinzione fascismo autoritario, fascismo totalitario, consente di vedere anche nel regime i fascisti totalitari. Per me il caso tipico è Bottai, che è stato benevolmente considerato un liberale del fascismo, secondo me non lo era affatto, era forse il più totalitario nel modo in cui aveva assorbito il mito totalitario, nel modo in cui voleva che questo mito totalitario diventasse realtà e nel modo in cui ha vissuto l'esperienza del regime, perché è stato l'unico gerarca, per quanto mi risulta, rimasto sempre in cariche o di governo o importanti per 17 anni. Si può escludere perché uomo di regime Bottai e metterlo nel movimento? Secondo me ci sono figure che appartengono al fascismo autoritario e che possono essere nel regime e figure che appartengono al fascismo totalitario ma possono essere nel regime. La mia distinzione che ho fatta in un mio libro è emblematicamente: Arturo Rocco è l'esponente consapevole del fascismo autoritario, cioè il regime così come è stato costruito dal 1925 al 32 è un regime compiuto e definitivo. I miti totalitari, la politicizzazione delle masse, sono così, orpelli. Il problema fondamentale è che questo è lo Stato fascista e questo Stato non deve essere rimesso in discussione. I fascisti totalitari credo che partivano da questa struttura per dire abbiamo la macchina, adesso facciamola funzionare e qui rientriamo nel mito totalitario della politicizzazione, della diffusione del fascismo come religione politica, dell'antagonismo con la Chiesa Cattolica e di tutta quella mitologia di cui non è testimonianza, secondo me, importante le dichiarazioni pubbliche, ma le dichiarazioni intime di uno come Bottai, che secondo me è emblematico di certi stati d'animo e di certe idee, di certe prospettive, di certi problemi del fascismo totalitario. Per cui io direi che, schematizzando, nel fascismo totalitario abbiamo tutte le componenti che De Felice attribuisce al movimento, però il fascismo totalitario è presente anche nel regime, cioè non c'è una contestazione del regime, non c'è una diffidenza per il regime, non c'è un regime che blocca il fascismo. Insomma, il regime esprime, nel senso di De Felice, nel senso dei fascisti autoritari, esprime il primo momento della costruzione dello Stato totalitario. Mito di Mussolini e fascismo nel 21. Possiamo contrapporre i nostri saggi. Anch'io ho scritto un saggio sul mito di Mussolini, prendendolo dal primo mito, cioè quello del mito socialista e così via, cercando di scomporlo, perché secondo me non abbiamo un mito solo di Mussolini, abbiamo tanti miti. Prima del fascismo ne abbiamo perlomeno tre, prima del 14, tre. Poi abbiamo il mito fascista, cioè il mito di Mussolini fascista. Io dico che il mito di Mussolini non agisce nel fascismo come mito del duce, cioè come mito del capo carismatico, fino al 1925, perché se il capo carismatico è il capo che non può essere discusso, è l'autorità alla quale si fa appello ma che non si contesta, noi abbiamo una quantità di contestazioni, non di contestazioni organizzate, questo sono d'accordo, però noi abbiamo nel 21 il patto di pacificazione e la nascita del partito nasce da una contestazione di Mussolini, e Mussolini deve accettare le tesi dei suoi oppositori, secondo me li accetta quasi integralmente. Dopo la marcia su Roma noi abbiamo una contestazione su due fronti di Mussolini come capo carismatico, mito incontrastato, da parte degli estremisti a sinistra, i quali dicono, ed è indicativo che c'è la conquista dello Stato di Malaparte, che è una continua polemica contro Mussolini: o realizzi il fascismo totalitario, il fascismo rivoluzionario, o te ne vai. Dire, io non posso immaginare un capo carismatico che suscita simili reazioni. Poi c'è il sollevamento dei consoli, che ricordava Schiller nel 24, che secondo me è il modo attraverso il quale il fascismo squadrista estremista impone a Mussolini la svolta del 3 gennaio del 25. Tutto questo non significa che nello stesso tempo Mussolini non venisse considerato un uomo eccezionale, un uomo importante. Ma perché? Io cerco di capire i motivi di tutto questo. E allora il primo motivo, secondo me, è che non potevano fare a meno di Mussolini. Non lo consideravano un capo indiscusso, ma non potevano buttarlo a mare facilmente, perché chi sostituivano a Mussolini? Ed è lo stesso problema del 21, stesso problema negli anni dopo del 24. L'altro aspetto è che il mito di Mussolini viene in quel momento, e ci sono diverse critiche a questo tipo di mussolinismo, come veniva chiamato, viene adoperato dai conservatori, dai fiancheggiatori, dai moderati contro il fascismo. Per la normalizzazione, cioè si dice: Mussolini sì è grande, ma Mussolini sarà grande se distruggerà il fascismo, lo calmerà, lo svirilizzerà. Ed è il momento in cui Pellizzi ed altri oppongono a Mussolini dicendo: tu sei il capo del fascismo, tu sei tutto questo, però tu sei quello che sei, perché c'è il fascismo, ma il fascismo non si riassume in te. Questo lo scrive in un libro come prefazione ai suoi scritti di... Ora, secondo me questo lascia intravedere un mito che non sarà come il mito degli anni dopo il 25, istituzionalizzato, indiscusso, perché non c'è più nessuna sollevazione significativa contro Mussolini, e che diventa, secondo me, in qualche modo, viene in qualche modo, se le testimonianze private, intime, personali, come la memoria di Giuliati, quale ribadisce dopo la caduta del fascismo quello che aveva sentito di fronte a Mussolini, interiorizzano il mito di Mussolini per i motivi che dicevo prima, adottando categorie weberiane. Cioè, a questo punto quest'uomo è riuscito a mantenersi sempre a galla, ha vinto tutta una serie di situazioni scabrose, credo che avesse anche un potere personale di suggestione, E tutti questi elementi, stato di necessità, per usare i termini di Weber, e entusiasmo, poi dopo il 25 creano una condizione di maggiore... cioè il mito non è più discutibile. Ma credo fino al 25, ecco, se vogliamo usare questa distinzione, esiste un mito ma è discutibile. Perché è un mito che ha troppi usi e molti di questi usi sono contro il fascismo. Il mito di Mussolini dopo il 25 è un mito che viene istituzionalizzato da Turati attraverso tutta una serie di iniziative che appartiene al sistema fascista e non può essere concepito al di fuori del fascismo. Ecco il modo in cui io lo vedo. Poi c'è il problema finale di quando il mito entra in contrasto con il regime, cesarismo contro totalitarismo, Duce contro partito, cioè questo mito che alla fine si è imposto tanto da paralizzare la macchina al punto che non si sa cosa sarà di questa macchina dopo che sarà scomparso il capo carismatico. Qualcuno pensava alla Chiesa, c'erano molti riferimenti, cioè avremo un sistema politico come la Chiesa, dove il Papa non è necessariamente una personalità carismatica perché sarà carismatica la carica, ma qui cominciano le polemiche, le differenze. Cioè, è una carica il Duce o è una dote personale? La politica estera, francamente non saprei dare una risposta sulla base di quello che so. Penso certamente che la scelta a favore della Germania era indubbiamente un incentivo alla ripresa della politica totalitaria. Rientrava nella radicalizzazione. Cosa poteva succedere se invece l'Italia entrava con le democrazie? Secondo me una grossa crisi, probabilmente, ma una crisi superabile come il patto Hitler-Ribbentrop-Molotov, cioè dopo aver tanto parlato contro la Russia, poi facciamo un patto. È un problema, non saprei francamente dare una risposta, cioè l'Italia si allea con le potenze, con le democrazie liberali, cosa significa? Che a questo punto deve dichiarare il suo fallimento come regime totalitario nuovo che era cresciuto e si era formato dicendo le democrazie liberali sono assolutamente inette a sopravvivere in una società di massa e dei conflitti imperialistici. Oppure avrebbe detto intanto risolviamo il problema della guerra conservando il nostro regime, poi vedremo. Questo francamente non lo so, non saprei dare... C'è per esempio Gambino nella sua storia del Partito Nazionale Fascista che dice se il fascismo sarebbe stato rimasto neutrale, il partito del fascismo si sarebbe sciolto come la neve al sole. Non lo so, dice che dice il fascismo doveva fare la guerra, in linea di massa avrebbe potuto fare la guerra anche contro la Germania, ma non poteva rimanere. Personalmente io penso che immaginare un fascismo neutrale senza entrare in crisi come ideologia, come sistema, come mentalità, come tutto, era un po' difficile. Cioè sono d'accordo con i primi osservatori antifascisti di dire c'è una certa fatalità nella tendenza fascista alla guerra. Però non saprei dire se la neutralità trasformava il regime totalitario definitivamente in un regime di tipo franchista, si avrebbe restituito al re un potere maggiore. Sono un po' ipotesi sulle quali esprimo delle opinioni, ma non ci giuro. Come Grandi che dice, se Mussolini avesse fatto questo grosso errore del 10 giugno 40, lui sarebbe morto come Boeing, come professore a qualche università. Io ho il parere che la dinamica fino al 40 era tale che le cose non rimanevano uguali. Professor Pombini. Io vorrei entrare su un paio di questioni abbastanza specifiche, perché non altro che sono d'accordo con moltissime delle cose che Gentile ha detto, diciamo, non le ripeto. Tra l'altro altre cose sulle quali ho delle opinioni un po' differenti, erano poi domani mattina. Sì. Allora, la prima questione che a me pare interessante è questo problema del fascismo come partito armato, che è effettivamente è una questione fondamentale, ma sulla quale io mi permetto di avanzare un'osservazione, che è questa. È stato Duverger a sostenere per primo, che io sappia, questa tesi dell'assoluta caratteristica di novità del partito fascista come primo partito armato. Però io ritengo che non sia completamente esatta questa, perché sia pure con molte cautele, con molti problemi, noi non dobbiamo dimenticare che nella storia dei partiti la tipologia del partito armato è una tipologia originaria, cioè il partito massiniano come partito armato per cambiare lo Stato, c'è uno Stato oppressore, perché adesso naturalmente prescindiamo da problemi morali, quelli facevano una cosa buona e facevano una cosa cattiva, si capisce, è un problema importante. Questo secondo me è importante perché spiega anche la subvalutazione da parte dei liberali della pericolosità di questo partito armato. Chiunque abbia studiato la storia dei partiti nell'Ottocento italiano sa, nella seconda metà dell'Ottocento italiano, sa che tra 1870 e 1890 l'azione di polizia è stata dominata da questo problema del partito repubblicano che si supponeva armato e che in effetti, noi abbiamo trovato in qualche documento d'archivio in Romagna, aveva mantenuto, vogliamo dire, una doppiezza, per usare un termine, aveva mantenuto un problema di mobilizzazione di struttura armata, tant'è vero che negli statuti ci sono divieti di portare armi e via dicendo, no? Questo poi progressivamente dai prefetti medesimi era stato rivelato come un problema secondario, perché c'è una cosa che abbiamo pubblicato in un volume collettivo, una famosa lettera del prefetto di Forlì che dice ma cosa all'inizio, ma insomma in sostanza che cosa ci dice di continuare a cercare le armi quando questi qui si integrano lo Stato, conquistano le banche, eccetera, eccetera, questo è un problema superato. Io ho il sospetto che la classe dirigente liberale avesse questa idea, cioè che fondamentalmente la tradizione della violenza non era estranea ai partiti antisistema italiani, che poi pian pianino la perdevano lungo la strada. Anche il partito blanchista aveva avuto la stessa evoluzione, poi si integrò nel sistema parlamentare francese, era un partito armato. E quindi questo problema sia importante, perché allora, naturalmente con questo non vuol dire che le squadre sono la stessa cosa, perché ci sono tante differenze, ma mi pare importante demitizzare queste ipotesi, primo partito armato, non hanno capito, eccetera, eccetera. No, non hanno capito perché era il secondo partito armato che supponevano uguale al primo, oppure come sempre, quando c'è una rivoluzione, chi ritiene di essere forte pensa che i deboli su. Questa è la prima questione. La seconda questione, che secondo me è altrettanto importante, è questo problema della nuova fino a un certo punto struttura politica della divisione amico nemico, che molti ritengono che anche in questa relazione è stato detto nasce con la prima guerra mondiale. Ecco, io anche su questo delle perplessità, cioè a me sembra, in questo mi sembra che sia una grossa similitudine tra l'Italia e la Germania, che questo sia il problema classico degli stati, delle unificazioni che sono avvenute in un certo modo. Sapete che anche Bismarck parla di partiti Reichstoi e partiti Reichsfeindlich, no, questa grande spaccatura. La stessa nascita del trasformismo in Italia è presentata come la difesa del sistema contro l'attacco di due nemici dello Stato, i rossi e i neri, ugualmente pericolosi. No? Quindi questa categoria del nemico che non può venire integrato, ma deve venire eliminato, è una costante di metà della politica europea. Cioè, secondo me sarebbe molto interessante vedere perché in Francia e in Inghilterra questo non esiste. In Francia esiste, Morras. Sì, ma anzi, proprio le formulazioni fasciste, che però erano state introdotte già dai nazionalisti, il nemico, cioè, non l'avversario, il nemico, sono di Morras. Sì. E le hanno prese i nazionalisti italiani, naturalmente, le hanno prese da Morras. No, ma io non dico che non esistono ideologicamente, dico che non esistono come struttura costituzionale, veramente, cioè. Non nella struttura costituzionale. Mentre la struttura costituzionale tedesca e italiana, questa è in qualche modo, la costituzione materiale è in qualche modo fotografato, in Francia non è fotografato perché il compromesso costituzionale del 1870 di fatto stabilisce già la coesistenza legale del, vogliamo dire, monarchista, se ci potrebbe fare tutto in una distinzione interna, dei monarchisti da una parte e dei repubblicani più o meno veri dall'altra, no? E nel sistema inglese questo poi non esiste in maniera pressoché totale, tant'è che secondo me una riprova estremamente interessante è che nel dopoguerra in Inghilterra riuscirà addirittura a diventare comunista MacDonald, che è stato un pacifista e che è stato completamente, che credo sia l'unico caso di esempio europeo di un pacifista, un paese addirittura vittorioso, che ha potuto diventare comunista e costruire una brillante carriera politica nonostante abbia tenuto una posizione di assoluta minoranza nel suo stesso partito. In quel momento i laburisti non sono stati pacifisti nel momento. Questo mi sembra una questione importante, perché mi sembra una questione strutturale. Terza e ultima questione, perché domani spero di non poterla toccare molto, invece secondo me è una questione, un'altra questione, è una questione centrale. Io non ci sarò a rispondere, quindi è meglio, no, purtroppo no. A forziori, insisto su questo. Cioè, questo problema della posizione costituzionale del giudice, no? Allora, io credo che su questo punto c'è una premessa da fare. In Italia manca il lavoro fondamentale che Stolleis ha fatto per l'interpretazione della legislazione anarchista. Cioè, qui bisogna intendersi su come vogliamo entrare dentro questa materia, no? Che non è una cosa che si può, cioè, non è che si può interpretare una legge come si interpreta un articolo del Popolo d'Italia. È un marchingegno complicato, nel senso che la legge, e secondo me una grave carenza dei fascisti fu quella, perché essendo, se cioè, mettete una battuta, come la maggior parte dei politici italiani, degli analfabeti in questo campo, non si rendono conto che le leggi non sono delle robe che si buttano lì e poi insomma si rimescolano come si vuole, no? Cioè, la legge è una cosa che entra in un sistema e al di là di quello che pensava uno, poi funziona. Questo è un meccanismo che si vede benissimo nella caduta del fascismo del Gran Consiglio, una legge che poteva essere rivoltata in tutti i sensi, poi proprio perché non c'è un sistema giuridico di interpretazione, fallisce. Ma non voglio entrare in questo che è troppo complicato, bisogna fare un discorso molto lungo. Intanto è una questione di luce. Allora, qui ci sono secondo me tre problemi. Il primo problema da vedere è questo. Il sistema legislativo in sé che cosa postulava? Al di là di quello che pensavano le varie persone. Allora, che ne dicessero gli interpreti, la posizione costituzionale che si era determinata, no? Il complesso di legge costituzionale era tale per cui non si poteva non pensare che il successore di Mussolini fosse un duce, cioè una persona che aveva delle caratteristiche che non erano più né quelle del capo del governo in quanto tale né quelle del capo del partito in quanto tale, cioè era una figura nuova, perché una figura che non avesse potuto assommare questo non avrebbe trovato la possibilità di esercitare quella massa di poteri che Mussolini si era personalisticamente accentrato, secondo me Mussolini si era accentrato un po' a caso, arrafando il più possibile, senza una linea molto chiara di comprensione che faceva. Che cosa avrebbe significato questo? Quello che i giuristi, diciamo, liberali avevano sempre pensato, il fatto che il regime si sarebbe dissolto, non so se come il sole o come qualche materiale più resistente, però si sarebbe dissolto perché non avrebbe potuto reagire alle contraddizioni interne di un sistema legislativo che non stava in piedi. Cioè, aperta questa breccia sarebbe. Quindi questo era un problema molto grosso. Il secondo problema è questo, perché non si è affrontato questo problema? Perché, anzi, progressivamente, nonostante ci siano delle voci in contrasto, la teorizzazione che è emersa è stata quella sostenuta da Chimienti in particolare, ma poi anche da molti altri, che era la qualifica eccezionale di un uomo eccezionale, no? Allora, questo secondo me non bisogna dimenticare che sono interpretazioni che escono di un regime autoritario, totalitario, come altro momento, ma di un regime senza libertà, sono interpretazioni di corte che si fanno perché sa che Mussolini gradisce questa interpretazione e che Mussolini è contrario a interpretazioni di tipo diverso, che Mussolini, che non è un statista, ma è un capo politico, vuole avere fino all'ultimo, come Hitler, come tutti, vuole avere fino all'ultimo personalmente la possibilità di cambiare le carte con l'ultimo sospiro prima di morire. No? Quindi questa teoria della qualifica eccezionale, secondo me, è una qualifica funzionale alla pressione che esercita Mussolini. Il terzo problema è un problema, secondo me, sempre l'interpretazione di questo, ancora più fondamentale, ed è questo problema weberiano del carisma. Cioè, io sono convinto che Weber sia un autore molto, molto difficile e col quale occorrono alcune cautele, no? Cioè, io non sono così certo che il discorso sul carisma sia un discorso sulla personalità. Cioè, io sono abbastanza convinto, mi pare che il caso di Mussolini, come del resto la relazione che mi avevamo ascoltato, dimostra ovviamente da molti punti di vista, sia un caso in cui la funzione crea il carisma, no? Cioè, si capisce con un minimo di struttura personale, eccetera, eccetera, ma il poter attribuirsi un certo ruolo e il poter agire all'interno di questo ruolo innesca questo meccanismo per cui alla fine la costruzione materiale crea questo capo carismatico, no? Questo capo carismatico come figura fino a che punto regge? La mia domanda è precisa, perché io dico, nei momenti di crisi, noi non vediamo mai, nei momenti di crisi di cui l'istituzione carismatica va in frantumi, noi non vediamo mai Mussolini agire come persona puramente carismatica. Non è che Mussolini esce dalla notte del Gran Consiglio urlando le camicie, con una pistola in pugno, urlando le camicie nere all'assalto dei traditori, adesso dico una banalità, ma non esiste una, cioè nel 24 non è che Mussolini e questi figli fanno un pronunciamento, guarda fisso negli occhi e dice andate al diavolo, cioè questi tipi di struttura, cioè questi che danno la personalità carismatica in quanto persona, noi non ne vediamo mai, cioè è più una regia, un solito di fondo alla stanza di mappamondo, le luci sul fuso, eccetera, eccetera, più che non una qualifica di tipo personale. Scusate, sono un po' perdute. Chi domanda? Vuol rispondere subito, forse sì. No, vediamo se c'è. C'è qualcuno che domanda ancora la parola? Io vorrei fare qualche osservazione. Ultima sul capo carismatico, io sono d'accordo con quello che dice Pombini, però naturalmente deve avere grosse doti, perché io baso adesso sull'esperienza più recente invece De Gasperi. Nel 45 ancora, quando propugnava che De Gasperi andasse a capo del governo invece di Parri, la Malfa diceva: io non conosco uomo più mediocre di De Gasperi, però insomma qui è l'unico che può normalizzare la situazione. E in effetti De Gasperi dal 45 al 47 non agisce come capo carismatico. Poi all'improvviso la svolta del 47-48 lo fa diventare capo come Adenauer lo stesso, ecco. Io però furono capi carismatici sia negli loro anni migliori, sì, sia De Gasperi. Naturalmente Mussolini rispetto a De Gasperi e anche rispetto ad Adenauer, siccome era un dittatore, si capisce, la dittatura potenzia questa funzione. Tuttavia bisogna avere anche le doti. Bisogna avere anche le doti, perché se uno non ha questa dote, anche nella dittatura fallisce. Dittature ormai ne abbiamo visto in questo secolo tante, e tante sono crollate proprio perché il capo carismatico è mancato. Io però vorrei risalire un momento indietro e dire che apprezzo soprattutto nella relazione molto acuta di Gentile il problema da dove viene la novità del fascismo. E mi pare che questo glielo abbia detto molto bene, risalendo al pre-1914, a proposito del nazionalismo, che appunto il nazionalismo italiano si differenzia dai nazionalismi degli altri paesi perché ha un programma di innovazione. Questo di Rocco naturalmente è un programma di innovazione, ma non è solo il programma di Rocco, e proprio i nazionalisti hanno trovato il ponte col sindacalismo rivoluzionario, che invece è la vera incubazione del fascismo. Il fascismo non è nazionalismo, non è sindacalismo rivoluzionario. È la sintesi di questi due elementi. Ora questo Corradini l'ha teorizzato, dei sindacalisti rivoluzionari che sono passati al nazionalismo come Maraviglia, Forge d'Avanzati l'hanno praticato. Michels naturalmente ha detto molto giustamente, il professor Gentile, sarebbe una figura Robert Michels da studiare molto da vicino per il periodo prebellico, perché fu un tratto di congiunzione. E direi però che c'è un'osservazione fatta sin da allora da un osservatore molto acuto, certo lungi dall'essere teorico, però un politico notevole, Nenni, il quale vide subito, allora lui che non era né nazionalista né sindacalista rivoluzionario, ma come repubblicano un po' nazionalista e un po' sindacalista rivoluzionario, c'era tutte e due, e diceva: questi due movimenti si caratterizzano perché rappresentano tutte e due una rivolta morale al giolittismo. Ora il professor Gentile naturalmente ha ragione, la rivolta al giolittismo era un fatto esteso, andava da opposizione, coinvolgeva Nenni naturalmente, ma Salvemini, Giolitti, Prezzolini, Croce stesso naturalmente, anche se dopo lo negava, via dicendo, ma come critica ma proprio rivolta, cioè qualche cosa che vuol rovesciarlo con la violenza, questo era tipico del nazionalismo e del sindacalismo rivoluzionario, e su questo, con la guerra libica e durante la campagna per l'intervento, la guerra mondiale, si unirono. Io credo che a questo poi si sono aggiunti gli elementi della guerra stessa, ma è fondamentale che in fondo l'evoluzione si era preparata in Italia prima della guerra, sia pure certamente in previsione della non guerra, perché Corradini teorizzava l'unione del sindacalismo rivoluzionario proprio in previsione della non guerra. Se ci sarà la guerra dell'Italia proletaria, poi anche queste masse proletarie dovranno combattere per lo Stato italiano e non gridare viva Menelik, come avevano gridato, e lui ricordava Adua, naturalmente. Per la guerra, naturalmente, salvo questa cosa di Moras, che aveva già prima della guerra questa idea del nemico, e l'assassinio di Jaurès non è venuto a caso, certamente è la guerra, l'esperienza della guerra, che ha cimentato questo col cameratismo, con la gerarchia, con l'uso delle armi. Questo è giusto, però l'evoluzione è precedente. Dal sindacalismo rivoluzionario, il fascismo, dice giustamente il professor Gentile, questo andrebbe sottolineato, ha preso l'idea dell'organizzazione, non come organizzazione politica semplicemente, ma come organizzazione che si estende a tutto, perché naturalmente il Partito Socialista era un partito organizzato, anzi in Italia, ma anche in Germania, il primo partito politico organizzato. Però in Germania meno, ma in Italia di più, il Partito Socialista presto si è trasformato da organizzazione, come potrei dire, di classe, in organizzazione parlamentare. In Germania un po' meno, perché il maggior legame fra sindacati e operai, che avevano molto maggiori masse di come non avessero i sindacati italiani, ma anche in Italia c'è stato un certo legame fra sindacalismo riformista e Partito Socialista, solo che il Partito Socialista tedesco italiano non aveva la stessa direzione dei sindacati, perché i sindacati erano riformisti, i sindacati tradizionali, e il partito aveva spesso una direzione rivoluzionaria, mentre in Germania la simbiosi era data dal fatto che erano riformisti di qua e di là. Però in Germania questo c'era di più, e ci sono dei libri, addirittura sulla sottocultura della socialdemocrazia tedesca, c'era una concezione della vita, non era soltanto un'organizzazione parlamentare. Il sindacalismo rivoluzionario in Italia non ha creato niente del genere, naturalmente, concezione della vita, eccetera, però ha fatto questa cosa che è stata fondamentale per il fascismo, cioè ha organizzato i disorganizzati. Mi pare la grande novità del fascismo è l'organizzazione dei disorganizzati, cioè oltre all'organizzazione che si è già creata sindacalmente o come comitati elettorali, quindi via dicendo, ha intuito che ci sono i disorganizzati, e questo è un elemento decisivo, e questo è stato sicuramente uno dei segreti del successo del fascismo dall'inizio alla fine, dall'inizio, perché gli squadristi erano generalmente dei disorganizzati, salvo alcuni che venivano dal sindacalismo rivoluzionario, erano dei disorganizzati, erano degli arditi, erano degli studenti, c'è gente che non aveva come potrei dire, una fedeltà organizzativa da osservare, dava tutto nel nuovo, metteva tutto nel nuovo, e questo è durato fino alla fine, perché la forza di massa del fascismo, il consenso, erano sempre disorganizzati, cioè che oltre agli iscritti del partito fascista, il fascismo poteva mobilitare quelli che non avevano la tessera del partito fascista, che però al momento opportuno, a tutte le adunate, facevano sentire il loro peso, e questo è quello che assicurava il contatto col paese. Mussolini stesso, la mia impressione, che oltre a sapere molto bene quanto questo pesava, ne aveva anche una certa paura, perché insomma proprio l'elemento rivoluzionario del fascismo è che il fascismo poteva dal 20 al 22 abbracciare qualsiasi rivendicazione, è stato liberista e interventista, poteva approvare D'Annunzio, poteva sconfessare D'Annunzio, poteva andare avanti con le violenze squadristiche, poteva anche frenare le violenze squadristiche. Il patto di pacificazione non funzionò, perché in fondo non funzionò proprio, lo dice Grandi anche nelle sue memorie, perché nelle regioni dell'Emilia non solo la violenza aveva vinto, ma il movimento sindacale fascista aveva già soppiantato, basti pensare a Ferrara, ma stava accadendo anche a Bologna, l'organizzazione sindacale socialista. Quindi essi erano sulla cresta dell'onda non soltanto con lo squadrismo, ma proprio con questa nuova organizzazione sindacale in cui ci mettevano anche i disorganizzati, precedenti, quelli che i socialisti non erano riusciti a riorganizzare. E questo era un fatto di rivolta proprio sindacalista. E Mussolini questo aveva paura, e credo che questo abbia avuto, questa paura, la sua eco, quando Mussolini sciolse le confederazioni. Non è che Mussolini potesse, dalla Confederazione Generale, non è che Mussolini potesse aver paura di Rossoni, che rispetto a lui era un povero uomo, c'era una enorme differenza di statura fra Mussolini e Rossoni. Ma è un'organizzazione che metteva dentro gli ex disorganizzati, non solo i fascisti ma gli ex disorganizzati, quindi questo elemento sindacalista rivoluzionario continua nel fascismo. E del resto Rocco l'aveva capito perfettamente, perché una delle cose che Rocco aveva elaborato già nel 1912 era proprio la concezione sindacalista, ma non alla maniera di Sorelma. Non di liberazione, ma di costrizione. Sì, di costrizione. Ultima questione, la questione internazionale. Beh, io non vedo il successo del fascismo, malgrado tutto, indipendentemente dal contesto europeo. Cioè, senza la crisi dell'Europa di Versailles, il fascismo non sarebbe potuto. Questo per il nazismo è evidente, perché la lotta contro il Versailles di Hitler, ma insomma anche in Italia. L'Italia sarebbe stata boicottata, un'Italia dittatoriale sarebbe stata boicottata moralmente in un'Europa diversa. E tutta l'Europa, perché i regimi dittatoriali pullulavano, naturalmente Ungheria, Bulgaria, Polonia, Unione Sovietica, naturalmente il peso enorme della paura del bolscevismo, insomma era l'Europa che era in fermento, e Mussolini lo capì fra i primi. I suoi scritti del 20, 21, 22 sono lucidissimi circa l'Europa senza pace. Il titolo è di un libro di Nitti, cioè di un antifascista, ma Mussolini la pensava allo stesso modo, solo che naturalmente ne traeva conclusioni opposte. Ora questo spiega, credo, anche le scelte poi fatali di Mussolini in politica estera, perché mentre a un certo momento col trattato di Locarno l'Europa ritrovò una sistemazione e Mussolini fece buon viso al cattivo gioco, aderì a Locarno, ne trasse vantaggi, la politica estera che Grandi attribuisce a se stesso, ma che indubbiamente non era solo di Grandi. Se voi adesso leggete le memorie di Subic, e beh, Subic succedette a Grandi e si vede benissimo, memorie molto sincere, tra l'altro fa anche l'apologia di Mussolini, sono memorie scritte recentemente. Faceva la stessa politica di Grandi, cioè Subic da sottosegretario e Mussolini da ministro degli esteri, faceva la stessa politica di Grandi, finché durava quella situazione di Locarno. Quando la situazione di Locarno fu rotta con la rioccupazione della Renania, viene una nuova epoca dei torbidi, e Mussolini, io credo che fosse costretto a scegliere i torbidi, e che quello che lo fece scegliere i torbidi fu la Spagna. Lui non poteva non intervenire a favore di Franco, avrebbe potuto naturalmente in astratto mettersi d'accordo col governo conservatore inglese per una mediazione, che era l'idea inglese, una mediazione fra Franco e i franchi antifranchisti, ma siccome Hitler intervenne contemporaneamente, come avrebbe potuto Mussolini scegliere la mediazione e Hitler interveniva in favore di Franco? Sarebbe stato un cambiare di campo eccessivo, insomma, avrebbe dovuto rinunciare a tutte le speranze o velleità della rivoluzione fascista. Era l'idea stessa della rivoluzione fascista che lo portava dalla parte dei torbidi, anche se gli interessi dello Stato italiano fascista, avrebbero potuto invece spingerla ad un accordo con l'Inghilterra. Franco voleva l'accordo con l'Inghilterra, perché Franco non era capo di un movimento rivoluzionario. I rivoluzionari nel campo franchista erano una piccola minoranza, ma il fascismo, proprio dopo l'Etiopia, si era messo a ripristinare questa mitologia rivoluzionaria che i fascisti poi sentivano. Io credo che la spiegazione sia un po' questa. Scusate se adesso mi sono dilungato. Allora, niente di nuovo sotto il sole. Partito armato, il primo a dirlo, credo sia stato, se non Salvatorelli, nel luglio del 22, certamente con un termine diverso, Salvemini nel novembre del 22. Dice, tutta l'Italia, la storia italiana è un seguito di dittature. Anche Mussolini è una dittatura, con la differenza che si basa su un'organizzazione armata. Non credo che il problema sia della tipologia o del rivendicare la novità del termine. Il problema è che non c'è esempio di una organizzazione politica che nel suo statuto pubblicamente pone un'organizzazione armata che contava centinaia di migliaia di squadristi in una democrazia liberale occidentale dopo il 1919. Questo è una realtà. Si può dire poi la tipologia, il rapporto tra... E non credo che sia paragonabile a sospettato gruppo armato alle armi, non a gruppo armato dei repubblicani o addirittura al Partito d'Azione. Gruppo armato esisteva, era fisso nello statuto pubblico, agiva pubblicamente. No, io sto dicendo, io la mia definizione è partito armato che agisce apertamente per statuto con un'organizzazione armata in una democrazia liberale. No, professor Gentile, io direi così. Questa c'era. Si possono trovare precedenti prima, no, scusi, ma non in questa configurazione. Nel 19, prego. Scusi, professor Gentile, c'era naturalmente, c'erano i blanchisti, poi c'erano in tutti i partiti comunisti costituitisi dal 19 in avanti, compreso quello italiano. La differenza, e su questo lei ha ragione, è l'unico caso di partito armato che è stato accettato dai poteri pubblici. Cioè, repubblicani perseguitati, blanchisti perseguitati, partiti comunisti naturalmente perseguitati fino al 45 in ogni paese europeo, il partito armato fascista non è stato accettato. Bonomi lo accettò. Ora, il problema non è quello della originalità in assoluto dell'organizzazione fascista, è l'originalità di sapersi far accettare. Di una serie di elementi che rendono questo fatto nuovo nella situazione italiana. E quello che io affermo è che non solo riesce, cioè stranamente viene accettato, cioè lo Stato liberale che ha visto in azione queste squadre nel momento in cui vengono istituzionalizzate come organizzazione di partito non interviene. Le tratta appunto questo, le tratta come se fossero i vecchi gruppi armati supposti dei repubblicani che poi venivano trascurati. Cioè, un'organizzazione armata che al minimo aveva 100.000 squadristi, al minimo ne erano 300.000 iscritti, ma ammesso che siano, secondo me era un problema nuovo, che alcuni capirono, è vero che alcuni capirono, altri no. Nel 21 Giolitti cercò di riassorbire lo squadrismo, ma il partito è dopo il tentativo di Giolitti che già era fallito, quindi c'era già questa esperienza che queste squadre non si riassorbivano. Non erano una forza tradizionale di giovani da utilizzare e poi da accontentare in Parlamento. Stranamente questi invece, dopo che sono stati portati in Parlamento, uniscono all'organizzazione armata anche il gruppo parlamentare. E era detto chiaramente che si usava il Parlamento, non si dava fiducia al Parlamento. Per cui per me il problema è che rapporto c'è, e la risposta che ho dato è quella che a me personalmente è ovvio, convince, è che c'è una logica che si svolge attraverso il mutare delle situazioni, delle circostanze, fra questo partito armato e lo Stato totalitario. Lo Stato totalitario non è un'improvvisazione del 25 e del 26. Qual è il filo rosso che unisce il fascismo armato del 20, 21, 22 al fascismo regime? Per me è una logica di sviluppo, di svolgimento. Non come un teorema, non come un esperimento di laboratorio, ma questa logica esiste, altrimenti io perdo l'individualità storica del fascismo e tutto quello che si è detto finora non me la ricostituisce, non qui, per quello che si dice su questo rapporto. amico o nemico, anche questo non è il concetto, la categoria, è un dato di fatto, è una realtà, è un'esperienza. Per la prima volta, certo, i nazionalisti hanno detto i socialisti sono nemici della nazione, però noi abbiamo per la prima volta, attraverso l'esperienza della guerra, che non si dice semplicemente i socialisti sono i nemici. Noi agiamo praticamente contro i socialisti come nemici, li trattiamo come nemici e li mettiamo nella condizione dei nemici, cioè di non poter più agire. È una realtà, non è una tipologia. Credo che questo è il problema, cioè questo accade con la guerra. Dopo la guerra, noi non abbiamo prima della guerra, dopo la guerra di Libia non abbiamo squadristi in giro contro i socialisti, anche se molti avrebbero voluto che ci fossero, e nell'8-9, prima della guerra di Libia, a Parma, ci furono squadre anti-operaie durante lo sciopero, però non era una organizzazione, non era una massa e soprattutto non faceva immediatamente seguire e sistematicamente, fino al punto di distruggere, le dichiarazioni ai fatti. E l'organizzazione socialista fu distrutta, e poi fu la volta dei cattolici, altri nemici. Io la interpreto in questo senso. Sono amici e nemici, nel senso nazione e antinazione. Il fascismo rivendica di stabilire chi è nazione e chi è antinazione e agisce di conseguenza. Direi che c'è un fatto molto più importante per il successo di questo partito armato, che mentre in altre epoche storiche, anche vicine, non ha conquistato il monopolio dell'opinione pubblica, questo partito, monopolizzando il concetto di nazione, dicendo io rappresento la nazione, aveva occupato uno spazio importante che gli altri partiti, popolare e socialista, avevano lasciato libero, trascurando che c'era l'elemento nazione, che mito nazione, realtà nazione, che non poteva essere trascurato dopo una guerra come quella del 15-18. Il fascismo occupa questo spazio, rivendica questo monopolio e ritiene anche legittima la sua azione armata. Forse l'equivoco di molti liberali fu che effettivamente quell'azione armata fosse legittima, visto che era fatta in nome dei valori nazionali, e quindi si poteva anche tollerare nel regime liberale. Poi c'era il pericolo di un'azione armata comunista. Poi c'è questo pericolo dei liberali, sì, però siamo sempre al problema che mentre gli arditi rossi cercano di organizzarsi ma falliscono, il partito e fallisce perché lo Stato contro gli arditi del popolo interviene, cioè loro non seppero farsi accettare, mentre il fascismo sì, perché secondo me ci sono questa serie di fattori che il fascismo riesce, occupa il sentimento nazionale, occupa il problema della difesa dello Stato quando lo Stato è assente, rivendica una serie di funzioni e le può esplicare nel momento in cui lo Stato, ma io direi, ecco, precisando quel concetto, la classe dirigente liberale, sì, sì, non sa che cosa fare, cioè non riesce a fronteggiare questa situazione. La posizione costituzionale del Duce è, anche in questo caso, certamente il problema giuridico di qual era la posizione di Mussolini può essere sottoposto a severe critiche dal punto di vista della logica formale. Però io mi trovo di fronte, e qui il dizionario di politica fatto dal partito fascista pubblicato nel 40, che nel problema della posizione giuridica del Duce dice no, qui c'è un problema, non si sa se il capo del governo è tale perché è Duce del fascismo o il Duce del fascismo perché tale è capo del governo, perché noi non abbiamo un sistema per eleggere il capo del partito, quindi l'unione è personale. Ora, come giurista uno potrebbe dire ci sono una quantità di contraddizioni incongrue, non si prevede il meccanismo, però io come storico politico cerco di capire qual era il problema reale vissuto e quali prospettive si ponevano i fascisti e come pensavano di risolvere, quali giochi di poteri esercitavano in questo periodo e come adoperavano anche questi equivoci ai loro fini. Perché per esempio Starace, che secondo me puntava ad una successione alla qualifica della funzione del Duce con la funzione del partito, cioè il successore del Duce sarà il partito con le sue istituzioni, e probabilmente pensava a sé come successore. E quando si tratta di discutere appunto il problema del Duce, lui dice ma questa è qualifica personale, voglio vedere chi di noi avrebbe il coraggio anche fra 100 anni di investirsi di questa qualifica. Le incongruenze giuridiche, i vuoti che lasciava, sono reali, ma il problema è nella realtà storica come questo problema era vissuto, quali conseguenze aveva, quali prospettive reali o ipotetiche lasciava alla successione di Mussolini, Duce, capo del governo, quello che fosse. era certamente un vuoto enorme di potere che non si è verificato in tutte le altre dittature, perché nei regimi comunisti abbiamo l'esperienza di capi che mutano, ma il sistema rimane. Il problema è: poteva rimanere il sistema fascista senza Mussolini come capo carismatico? E vengo all'altro problema. Certo, io leggo, cerco di leggere sempre con cautela qualsiasi cosa, nel senso cerco di pensare, adopero Weber perché mi sembra l'autore che più semplicemente abbia posto il problema di come si sviluppa, come nasce il carisma. Potrei citare un altro autore che mi convince per descrivere in modo specifico il carisma di Mussolini e del Michels. Adopero dei concetti per descrivere un fenomeno che è innegabile e che presenta due caratteristiche. Primo, che Mussolini fosse dotato nel senso weberiano di carisma, ma che è qualcosa che gli viene attribuito. Questa è la definizione di Weber, cioè il carisma è qualcosa che i seguaci attribuiscono a Mussolini. E cosa lo fa nascere? Doti personali, indubbiamente, tutta una serie di doti personali. È certamente favorito dalla posizione, e specialmente se poi viene istituzionalizzato. Un papa può essere carismatico anche se è una scialba figura, perché in qualche modo è chiuso in una funzione carismatica. Ma il fatto è che Mussolini è considerato un capo carismatico nel 1912-14, quando appare di colpo al congresso di Reggio Emilia nel mondo socialista, grosso modo con le stesse caratteristiche, cioè l'uomo al quale viene attribuita la capacità, termini weberiani, io uso questi perché potrei usare i miei, ma preferisco questi che mi parlano più semplici e chiari, la capacità di realizzare la rivoluzione, cioè di realizzare una missione. Può essere adoperato questo come concetto carismatico? Io penso di sì, per qualificare il potere di Mussolini sui socialisti, quindi quando non c'era né organizzazione, e Mussolini non ebbe un peso organizzativo nel Partito Socialista. Lui nel 12 lascia un'impronta che dura nel 13 e nel 14. E la suggestione è quella di un uomo che appariva dotato finalmente della capacità di realizzare la rivoluzione in Italia. I miti carismatici non sono eredità permanenti, tant'è vero che è legato al successo. Se il capo carismatico non risponde alla fiducia del seguito che gli attribuisce queste doti carismatiche, fallisce. Mussolini nel 14 si illude che il suo potere carismatico sia tale, perché non aveva letto Weber, sia tale da trascinare le masse, visto che le masse rivoluzionarie erano, gli attribuirono tali poteri, lo ha dimostrato la Settimana Rossa, e invece in quel caso lì è la prova che se il capo carismatico non corrisponde ad una situazione psicologica favorevole, ma è lui che deve rispondere, le masse lo lasciano, lo abbandonano, non lo seguono. In quel caso Mussolini si mise di traverso alle masse, non rappresentava più l'uomo investito della missione e perde il carisma. È in questo senso che io cerco di capire come emerge nel fascismo, con caratteristiche specifiche, il mito del Duce, che è mito di Mussolini, mito del Duce. E cercare di mettere a fuoco un problema, e non credo che svuotare Mussolini del potere carismatico e legarlo solo alla istituzione sia qualcosa che può valere. Infatti ho detto che il partito fascista consapevolmente istituzionalizza il mito carismatico di Mussolini, cioè lo esalta come appunto una figura, l'artefice, il portatore della missione, eccetera eccetera, però in qualche misura lo subisce anche, vive all'interno di questa struttura, non perché è un'istituzione ma perché è Mussolini, e per i motivi che ho detto. Queste sono le mie osservazioni alle obiezioni. E poi, brevissimamente, perché non vorrei stancare, certamente questo problema del sindacalismo rivoluzionario, secondo me, è stato in genere accettato come un dato di fatto. Il fascismo, cioè, i fascisti per primi dicevano, venivano da lì, noi siamo gli eredi del... Ma non si è capito bene, secondo me, o perlomeno non si è studiato a fondo, e questo fatto nuovo che lei giustamente ha sottolineato, l'organizzazione. Noi oggi siamo abituati a vedere organizzazioni dappertutto, però il fascismo ha avuto, io dico scherzando così, ha avuto la maniera, il mito dell'organizzazione, ha organizzato un mito, ma insomma il fascismo parte da una struttura che è anti-organizzativa, dopodiché si converte al mito dell'organizzazione, al punto che nel 42 noi abbiamo 27 milioni di italiani su 45, se non ricordo bene, iscritti al partito fascista e alle associazioni dipendenti. Si può prendere come un dato puramente così, statistico, no, esiste sulla carta. Ma il problema per lo storico è perché un partito ha bisogno di creare una struttura, di mantenerla in piedi, di adoperare forza o consenso, ma di adoperarla continuamente perché le masse partecipassero, e che addirittura quando il fascismo sembrava in una fase di crisi decrescente ancora si preoccupa di iscriverli, organizzarli, accrescerli. Da dove nasce questo problema? Secondo me nasce da una vecchia idea di origine sindacalista rivoluzionaria che per controllare le masse, per trasformarle soprattutto, e qui entriamo all'ultimo problema che è sfuggito, che è stato l'intuizione fascista delle masse, che è fondamentale perché il fascismo ha avuto il problema delle masse più di altri movimenti coevi, è che le masse non sono buone o cattive, come avrebbero detto i conservatori, sono materiale da plasmare, e esperienza o analisi, Le Bon, Sorel, Michels, l'esperienza del movimento socialista, è che attraverso l'organizzazione si può agire per creare una coscienza nelle masse, non per creare l'autocoscienza, e questa è la novità del fascismo, alla quale non rinuncerà mai. Non è l'organizzazione per la liberazione, è l'organizzazione per la trasformazione ai fini di un mito che è sostenuto da una aristocrazia che attraverso l'organizzazione può trasformare il carattere delle masse. E non solo, ma Michelson aveva dimostrato, può anche preservare per sempre, perché è legge dell'organizzazione, il potere dell'oligarchia. Questo è. Eine Zwischenfrage. Hitler spricht immer von Bewegung, ja? Spricht nie von Partei, auch in der Macht, ja? Anche nel betrifft. Anche Hitler parla sempre di movimento, mai di partito. E Mussolini parla di movimento o parla di partito? Mussolini parla sempre di partito. Sì, però questo è la differenza. Mussolini, direi che in genere tutti i fascisti abbandonano il termine movimento, salvo ritorna con una certa frequenza negli anni della svolta totalitaria, è accelerazione per me, totalitaria. Quando si comincia col dire partito e Stato non sono due realtà statiche, sono due realtà in movimento, e si dirà che lo Stato fascista non è uno Stato, ma è una dinamo, cioè non è qualcosa che può... Nasceva il problema, che è un'altra contraddizione, cesarismo-totalitarismo. Una volta creata questa macchina organizzativa, ma tutta però alla fine concentrata nel guidatore, senza che lui avesse insegnato ad altri come guidare questa macchina, la macchina aveva un futuro. E secondo me è il problema della contraddizione fra carisma e organizzazione, e della possibilità dell'organizzazione, nel senso in cui i fascisti l'avevano costruita, poteva sopravvivere senza avere un carisma. Questo è... Su questa domanda non possiamo rispondere. Ma nemmeno io, non possiamo rifare la storia con disse. Comunque, io ringrazio il professor Gentile. A voi se voleva dire ancora qualcosa. No, no, se ci sono altre obiezioni, se c'è tempo, altrimenti... Dipende da noi. Se lo dice tante cose, ma... C'è qualcuno ancora che chiede la parola? Allora ringraziamo il professor Gentile per questa brillante esposizione, per le risposte.